Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiedere che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascara, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Voglio vedere proprio chi c'è. State attenti comunque a quello che dite. Pronto? Pronto? Sì, c'è il signor Papa Renzo? Io ti amo, dottor Papa Renzo. Ecco, questo era il demonio. Eccoci. Minchia, quanto mi eravate mancati le lotte, perfino la pubblicità mi era mancata, perfino il traffico. Scusi, lei che combatte gli spacciatori, però mi risulta che a 22 anni è stato arrestato per favoreggiamento della prostituzione. Sì, io a 22 anni, siccome che abbiamo delle donne in gamba, io invece che andare con loro andavo giro, c'erano nere in strada, facevo un giretto, mi hanno insegnato l'inglese, no, facevo giretti, e i carabinieri mi fermavano, mi dicevano, facciamo multa, intanto scrivevano, dopo tre volte mi hanno inculato e mi hanno condannato per favoreggiamento della prostituzione. Ma io mica andavo a tombare con loro, andavo a parlare, scherzare, ho parlato anche l'inglese. Ricordatevi che il martello, il metallo, ma che cazzo sto dicendo? Il metallo è il nostro martello, la rabbia è il nostro cuore! A che cosa diavolo serve il banco con le rotelle? Serve andare a fare gli autosconti. Mario, sei tornato! Marione Giordano è tornato, ragazzi! Col banco con le rotelle! Evviva Giordano! C'ha ragione su questo, ragazzi, c'ha ragione. Io vado ai matti come Giordano, il banco sulle rotelle. Ma ti rendi conto, te ne sei occupato tutta l'estate e non hai detto un cazzo, ti sei messo a sedere su quella minchia di banco con la panza de fuori durante In Onda sulla 7 e non hai detto nulla al ministro Azzolina. Quello che c'ha la schiena dritta, il signor Giordano, lo dico a te, caro Parenzo, ha iniziato la trasmissione massacrando questa idea ridicola del ministro. Tu invece per un'intera estate sulla 7 avete leccato il culo al ministro Azzolina, ospitandolo ogni settimana, peggio dell'Istituto Luce, peggio dell'Istituto Luce, e non avete detto un cazzo. Invece Giordano, allora, in 30 secondi l'ha massacrata. Vergognati, questa è la differenza precisare. Tra fuori dal, lo voglio dire, mi tolgo anche la giacca, tra fuori dal coro, fuori dal coro che ha massacrato l'Azzolina. Cina in 30 secondi. No, e voi il duo Parenzo e Telese, dai, ma come si fa? Parenzo e Telese che in 7 puntate, 8 puntate sulla Azzolina non avete detto una parola contro questa follia. Ragazzi, posso finire qui? La differenza tra due trasmissioni, uno che la schiena dritta, uno che entra in uno studio televisivo, cioè Mario Giordano, a bordo di un banco disteso lanciato da un assistente di studio, cosa che io avrei voluto tra parentesi fare con Luca Telese, ci avrei messo volentieri Luca Telese sul banco e l'avrei volentieri spinto, lanciato. Ma ciò detto. Rebus sic stantibus, usiamo un ablativo assoluto, non avrebbe retto il banco per il peso assoluto. Noi, a differenza di Mario Giordano, le domande alla ministra le abbiamo fatto il nostro mestiere. Ma falla finita. Fare le domande, non roteare sopra i banchi in uno studio televisivo. Ma l'avete fatto questo anche è voi. Fatto. L'avete noi fatto non anche abbiamo voi. Roteato su un banco dentro uno ma studio. Ma l'avete fatto anche voi senza avere il coraggio di andare fino in fondo. Questa è la differenza. No, noi abbiamo messo la ministra sul banco. Ma lascia perdere. Tant'è che come ha la consideri questa cosa? Come la consideri? Una puntanata o no? Come la consideri? Una puntanata o no? No, no. Questa cosa del banco con le rotelle. Il banco con le rotelle. Geniale. No, geniale. Parenzo, due punti. No, geniale sul banco, d'accordo. Ma la ministra, questa idea del ministro, del banco con le rotelle. Dimmi la verità. Dimmi se non era puttanato o no. Europa, c'è un paese dove lo fa, dimmene uno, magari mi sbaglio. Ma dai, in Europa, come si fa? In Europa, dai. No, ragazzi, viva Giordano, special Giordano, andiamo, mandate Giordano quello che cazzo volete, uguale, un genio assoluto, viva. E vi ha distrutto in 30 secondi, avete fatto 10 puntate con l'Azzolina, vergognatevi, tu e l'altro Panzone, 10 solo... giornate. Beh, no, non dire così. Panzone, sì, no, Panzone, no, Telese, lo adoro, ma è un Panzone, lo adoro, ma è un Panzone. No, è brutto, tu è brutto. E quel McDonald's uscito, no, scuola, Hitler brutto, uscito brutto, da McDonald's, brutto, al contrario, brutto. Quel signore lì, quel Panzone lì, lo dico con amore. Noi abbiamo fatto quello che... Non avete detto una parola sulla stronzata dei banchi con le rotelle. Non ci siamo fatti roteare sui banchi, guarda, all'interno di uno studio televisivo. Non ve l'hanno fatto fare dai piani alti, altrimenti l'avreste fatto voi tranquillamente. Ma figurati, roteare dentro uno studio televisivo. Vai Giordano, prima però il collegamento da Padova, anzi da Pano Terme, sempre Alberto Gottardo, eccoci qui, vai. Certo, applausi, mollemente adagiato. Posso dirti qual è la differenza tra Giordano e il banco? Sì, vai. Che vai, il banco le rotelle ce le ha a posto, di Giordano non sono più così sicuro. Sono così più sicuro. Però io sono dalla parte di Marione, perché ha smerdato quelli che hanno l'Assolino, scusi, il banco con le rotelle, e lo due a fare sì, che cosa fa? Allora lo vogliamo mettere? È una puttanata, a cosa cazzo serve il banco con le rotelle? Porca la gran puttana. Sentivi Parenzo che dice, ministro Azzolina, ministro Azzolina, sentivi di quei colpi di lingua durante la domanda, che era una cosa incredibile. Facevamo una cosa a voi sconosciuta. Ti sta dando delle cagure, scusa, colpi di lingua, delle pennellate proprio. Facciamo cose a voi sconosciute, che è il giornalismo, cioè, delle domande. Poi si può anche roteare all'interno di uno studio televisivo e urlare dentro una telecamera. Io non dico Giordano, che non si può fare, Giordano, anzi, Giordano. L'ho visto anch'io ieri sera, Giordano, l'ho visto anch'io, perché volevo dire adesso cosa farà e adesso che cosa si farà, e l'ho fatto ogni volta che dicevo, si lanciava e urtava un povero assistente di scena che c'era lì, una comparsa seduta, e gli andava addosso. Io fossi in quello lì che lui urtava durante la diretta, l'avrei denunziato al tribunale dell'Aia, perché non si possono buttare le persone per terra, i tuoi collaboratori lì schiavizzati, vergogna. Mi banco con le rotelle, Donato, il banco con le rotelle, il banco con le rotelle. Io non ho ancora capito a che cosa diavolo serve il banco con le rotelle. Serve andare a fare gli autoscontri, serve a questo. Cosa serve il banco con le rotelle? Un'estate a parlare del banco con le rotelle. Mi è venuto sospetto che al Ministero della Pubblica Istruzione volessero finalmente qualcosa con le rotelle a posto. Hanno detto prendiamo il banco, visto che altro forse le rotelle a posto. Non ce l'ha Azzolina! Azzolina! Va bene ragazzi, passiamo a un fatto del giorno molto molto importante, molto importante. E qui, ancora una volta, voglio massacrare il qui presente signor Parenzo. Allora, cosa avresti detto tu? Cosa avresti detto tu? Cosa avresti detto tu? No, quello che c'è, quello che è successo 3-4 giorni fa. Non volete qualche giorno fa, ma non è che non voglio parlare. Tre giorni che ne parliamo. Siccome è morto, non se ne parla. No, ma è morto qualche giorno fa. Lo vuoi dimenticare? No, lo voglio dimenticare. La famiglia di due criminali che dice, ma in fondo era solo un immigrato. Quella è una frase non confermata, una frase presa dalla polizia. Non ne vuoi parlare. Dalla polizia, fosse vero, sarebbe gravissimo, naturalmente. E di questo non ne vuoi parlare. No, non è che tu vuoi parlare dei pettegolezzi, delle frasi uscite che non vengono confermate. Non ne vuoi parlare. Va bene, non parliamo. La cosa gravissima di oggi è tu non ne fai e tu non ne vuoi parlare. Tu la metti lì nel dimenticatoio. Una signora di colore congolese che aggredisce il signor Salvini. Ah sì, ho visto. Aggredisce certo, il signor Salvini. A Pontassieve. Certo, sì, a Pontassieve. Gli strappa il rosario, pare male. Anche una maglietta. Ah, male, matta, dici solo male. Matta, ma ecco una matta, subito una matta. Ma che cos'è? Subito identificata la signora congolese che lavora al comune di Pontassieve, peraltro. Non è dipendente, ma fa dei lavori al comune di Pontassieve. E fa parte anche di una onlus, non so di che cosa, ma non mi interessa. Questa signora congolese viene subito classificata, che ha aggredito il signor Salvini, viene subito classificata da Parenzo come una matta. Ma che cos'è? Certo, al contrario sarebbe stato un fascista, un sovranista, eccetera. Ma no, è un'aggressione di una matta. Ma è l'aggressione di una matta. Dunque, secondo te non c'entra un cazzo? Va inquisita. Ma quali sono i veri violenti? Dove sono i veri violenti? Dove sono i veri violenti? In galera. Li avete sempre detto che sono da una parte. In galera. Dai, ragazzi, avete sempre detto che sono da una parte i violenti, ma non è così, dai, su. Non dire stronzate. Fosse successo il contrario avresti fatto un casino. Paco! Ma certo, dove sei? Paco, dove sei Paco da Belluno? Ma cosa c'entra dove Paco? Sei Paco? Aggredito Salvini, magari sei anche contento di questa roba qua. Pensi che se la sia cercata, Pacone? Io ti maledico. Brutta scimmiona, dice uno, brutta scimmiona. Questo ecco, è il commento, bello, il commento bello, della gente intorno. Bello, quelli sono gente bello, intorno. Bello, là, che sbagliano. Cosa detto quelli intorno? Brutta scimmiona. E questo non lo fai sentire. No, questo vabbè, l'ho fatto vabbè, sentire, non si sente un cazzo, non è colpa mia, scusa. Ma l'ho fatto appena sentire. Perché non lo vuoi far sentire? Vabbè, non importa. Scusami, Andrea, rimetti. Che c'è una matta scatenata, pazza, che deve essere identificata. Perché è matta? È una che lavora normalmente e non è matta. E attorno i leghisti che dicono scimmiona a una matta. È la stessa cosa. È la stessa cosa, secondo te. Io ti maledico. Toglie il rosario, strappa il rosario, pare pure la maglietta. Aggredisce ragazzi. Salvini, è una pazza da internare, dunque un ma caso clinico. Un caso clinico. Invece gli altri sono i sovranisti, i fascisti, il clima fascista, ma no, ma scusami, il clima alla destra, quello vergognati. Che assalì Berlusconi, vergognati. Quello che tirò in faccia a Berlusconi un duomo, il duomo che prodotto cos'era? Di un clima. Era uno di sinistra. Il prodotto di era un clima. Il prodotto di un clima anti-berlusconiano, ragazzi, è la stessa cosa. Nessuno va a disturbare i comizi di Zingaretti, di Di Maio, nessuno, ma nessuno va a disturbare questi i comizi, comizi di nessuno. Quello va a fare il comizio e viene aggredito da una signora congolese. Ma male. E infatti deve essere identificata. Fosse portata stato in questura quello già indagata. Stato fatto, è già stato fatto. Allora, e tu però parli di matta e vergognati. E che cos'è? Fammi risentire. Fammi risentire. Gli immigrati aggrediscono Salvini, che roba è? Beh, ecco, non lo so, gli libero primo caso per fortuna. Gli immigrati strappano il crocifisso a questo Salvini. Questo tecnicamente vabbè, è vero. Questo è successo. Tecnicamente domani avremo la notizia per Feltri. Come sarà il titolo, Feltri? Come sarà? È una storia che seguiremo naturalmente per tutte le settimane da qui a Natale, naturalmente. Ma che c'entra, ogni scusa. Giorno metteremo, fatemi parlare in prima pagina la storia di questo orangotango. Ma come orangotango? Sostanzialmente, fatemi parlare. Ma perché un orangotango? Da giorni ma perché un orangotango? Salvini non lo può dire, lo ma non è aggredito, vero. E seguiremo, ricostruiremo ogni giorno l'albero genealogico di questo ma albero perché? Di banane. Ma e racconteremo ogni giorno la storia di questa signora. Ma il titolo, che velocemente, sinistra, il titolo, ma il non lo so se è di sinistra. Il primo di sinistra. Il titolo qual è? Il titolo qual è? Cioè, il titolo Orango aggredisce Salvini. Negra strappa il crocifisso a Salvini. È troppo lungo, però, troppo lungo. Abbiamo comprato due giornali per poterlo fare. Fermo lì, fermi, si fermi un attimo. Si e fermi la notizia, lo scoop che abbiamo è che votava Partito Democratico. Ma come fa e a sapere? Aveva in tasca, lo sappiamo, e aveva in tasca la foto di Zingaretti nel portafoglio. Fermo, questo lo possiamo dire senza. Ovviamente, ma mi interrompete fermo. Quando dico le notizie, la cosa va a far culo. Renzo, sei orrendo. Sei un leccapiedi del PD. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Vado avanti con più gioia, più grinta, più sorriso, più entusiasmo di prima, anche perché la violenza di pochi scalda i cuori della maggioranza, silenziosa, laboriosa, che in questo momento è a casa. Salvini pronuncia il nome della maggioranza silenziosa. Beh, impropriamente, però, direi, però, impropriamente. Vado avanti, no, per la maggioranza silenziosa. Un abbraccio silenzio a Salvini, un abbraccio a Salvini, perché effettivamente... Senti che ipocrisia, Gottardo, no, senti che ipocrisia. Ma ti assicuro, ma senti che ipocrisia. Senti che ipocrisia. È il bacio, no, di Giuda, il bacio di Giuda. Io le aggressioni non sono sempre stato contro la violenza. Ma sotto non hai un po' goduto, Parenzo? No, assolutamente. Tu che sei un anti Salvini. E secondo te Gottardo se l'è un po' cercato o no Salvini? Perché sono convinto che un po' la pensi così. Adesso faremo sentire anche un personaggio assurdo, un cretino totale. La politica non può finire a questo. Allora, ci sono due cose da valutare in questo caso qua. Il primo, se non porti un crocifisso nessuno te lo strappa. Il secondo, che vuol dire questo? Beh, questo secondo, io questa credo, puttana, io, però, che se non porti la catenina d'oro nessuno te la ruba. Che cazzo vuol dire? Esatto, come Rolex a Napoli. Ma cosa vuol dire? Seconda cosa, uno come Salvini, un servizio d'ordine quando si muove dovrebbe averlo intorno. Ma non vuol dire niente, ma non dovrebbero esserci questi casi. Questo è un po' più ragionevole, però la prima è una cazzata. Ministro, ho capito, ma la colpa non è del servizio d'ordine che non c'è, è di una signora che io non definisco matta. Un politico di un certo livello. Non fai arrivare una accanto a te. Vai con Salvini che dice di non voler sfruttare, però poi ne parla su Facebook. Però adesso non ne parli. Se ne parli vuol dire che giustamente la sfrutti politicamente, non c'è dubbio. È chiaro che viene sfruttata politicamente questa cosa. È un episodio bruttissimo, diciamolo tranquillamente. Ma questa è una banalità. Che vuol dire? Episodio bruttissimo è una banalità. Anzi, no, prima di Salvini, padre Zanotelli, signore che molti di voi lo conoscono, anzi, forse nessuno lo conosce. Missionario con Boniani. Un cretino, posso dire un cretino? Ma vergognati! Perché non ho capito, è un cretino. Ma chi se ne frega? In questo caso è un cretino. Ma chi se ne frega? Posso dire che in questo caso è un cretino? Devi sciacquarti la bocca. Devi sciacquarti la bocca quando parli di padre Alex Zanotelli. Ma che ne me ne frega? Ha salvato delle vite. Non può dire una cretinata anche se ha salvato delle vite. Ma che cazzo dici? Non ho capito. Ora, perché ha salvato delle vite, uno ammazza la moglie. Però è come quelli che lavorano. Ho salvato delle vite, però poi ha ammazzato la moglie. Però ho sempre lavorato. Ma che cazzo vuol dire? Io no. Ha salvato delle vite. E dai, su. Allora, Zanotelli dice che la vicenda di Willy è colpa della televisione, di Berlusconi e dell'odio di Salvini e della Meloni. Ha detto questo, ragazzi. Siete due vergognosi. I cattivi maestri sono solo a sinistra. Rispondi a questa domanda. Cosa c'entra? Possono esserci dei cattivi maestri? Solo Toni Negri. Solo cattivi maestri a sinistra. Zitti un attimo. Il problema fondamentale è questo. Questo signore Zanotelli ha detto che l'omicidio di Willy, il ragazzo di Colleferro, è opera delle televisioni. Sostanzialmente di del debbio. Le televisioni di Berlusconi, dice Giordano, del debbio, a quello si riferisce, non è che si riferisce a mio nonno Cariola. Le televisioni di Berlusconi, ma Salvini e Meloni. Però non ha detto in onda, vedi? Cioè, questo mi sembra che. Non ha detto, però vedi. Vedi, questo è già sottolinearlo. Ma è anche il frutto amaro, dobbiamo riconoscere. Frutto amaro, senti. Di tutto direi una predicazione, uso fra virgolette questo termine, una predicazione, che ci è venuta tramite la televisione. Ricordo i 30 anni di televisione berlusconiana. Ah, 30 anni di televisione berlusconiana, devastante. Ma soprattutto dalla predicazione di un Salvini, di una Meloni, che hanno sentito. Avete sentito? 30 anni di televisione di Berlusconi, Salvini e la Meloni colpevoli dell'omicidio di Willy. Padre Zanotelli è un cretino, lo posso dire, un cretino. È inutile che Gottardo si scalda con questa roba qui che ha salvato vite. Per cui non può dire ho salvato vite e poi magari ammazza la moglie. Benissimo, allora Dai, io su. Voglio sentirti dire una cosa del genere anche di un altro esponente, ma non so, quando, del Papa quando, o del Presidente della Repubblica. Se dici una cosa, ne ho dette di tutti i colori sul Papa. Guarda, vanno, il Presidente della Repubblica, no, questo c'ha un'aurea di intoccabilità. E allora, poi è difficile criticare, è difficile criticare Mattarella che parla pochissimo e dice pochissime cose. Il Papa ne ho dette di tutti i colori. Del Papa ne ho dette di tutti i colori. Dai, su. Meluzzi parla di elite planetaria e di psicopolizia. Ecco, questo è un cretino. Elite planetaria e psicopolizia. Meluzzi non ha mai salvato nessuno. C'è una follia in questo, c'è un'intrinseca follia, ma non è una follia perché è una follia strumentale, perché è uno strumento che serve a sospendere la sovranità dei popoli, la democrazia, l'autodeterminazione, il buonsenso, la civiltà, nel nome di un'elite planetaria che doveva tacitare tutto, reprimere tutto, affondare tutto, distruggere i crediti, come dire, di banche ormai fuori quadro, di avere un'elite che attraverso la psicopolizia di un microchip messo sotto pelle deve dominare tutto. Ancora il microchip. Allora ragazzi, voglio dire una cosa a favore di Daniela Martani, che questa mattina l'ho vista combattere durante il mattino di Canale 5. Ha combattuto come una leonessa, devo dire, contro alcune signorine lì presenti, non solo signorine, le quali erano andate a tutte le feste della Costa Smeralda, si erano prese il Covid, non hanno sostanzialmente un cazzo, queste qua, la Mosetti e varie altre showgirls, Aida Jespica eccetera, non hanno una fava di nulla perché sono totalmente asintomatiche, non hanno un cazzo, non sono malate, perché questa cosa qua di paragonare i malati agli asintomatici è una vergogna, lo fai pure tu e lo fa pure, anzi no, Gottardo non lo fa, no. E la sostanza è questa, che la signora Martani ha le sue idee anche contestabili, però non è che dice io sono andata alle feste in Costa Smeralda a mortacci vostra che mi avete attaccato il Covid, no, tu sei andata lì, ti sei presa il Covid, non c'hai un cazzo, non è che adesso viene a protestare a fare quella che dice no, non bisogna stare attenti, non sei stata attenta tu per prima, allora non rompere i coglioni. Voi arrivate dalla Sardegna, risultate positive, quindi a differenza di molti che sono stati graziati. Siamo a casa da un mese facendo. Ma non avete niente! Siete asintomatiche! Di cosa stai parlando? Daniela, non avete per favore, Daniela, la dovete smettere di diffondere messaggi di terrore, capito? Stai zitta, stai zitta! Grande confronto, grandissimo confronto. Marco da Brescia, Marco da Brescia. Poi torneremo sulla vicenda. Sulla vicenda di quelli che rompono i coglioni, vanno a tutte le feste, vanno a tutte le feste e poi dicono che bisogna stare attenti. Incredibile. Marco da Brescia. Eccomi, ciao. Dimmi. Pronto? Dimmi. Comunque io stamattina ho fatto il test qua sierologico, eccolo qua davanti a me, me l'hanno dato anche il coso, il pezzo di plastica, sì. Come mai l'hai fatto? L'ho fatto il test perché purtroppo vogliono che a Mediaset per andare giovedì vogliono che tu faccia un test, una cosa incredibile, ma comunque l'ho fatto, eccolo qua. Sierologico negativo. No, non mi faccio un favore. Non mi faccio un favore perché non ho un cazzo, ti chiaro? Ti pagano e tu anche ti lamenti. Marco da Brescia. Che lo sappia del debbio, che lo sappia il dottore. No, io mi lamento di questo. Ma io lo dico apertamente, per me è una follia. La serpe in seno che si porta nei suoi studi. Marco da Brescia, dai. Marco, dimmi. Cruciani, rischi di più tu ad andare a Mediaset, adesso te lo dico. In che senso? Perché il covo pieno di Covid, dici no, ma non c'entra niente, che c'entra? Non è che per Berlusconi ha il Covid, Marina Berlusconi ha il Covid, non è che Mediaset c'è il centro del Covid. Anzi, al contrario. Perdonami, me l'avete tirata fuori. Va bene, sono un grande ammiratore di Davide Parenza, questo è già... Buonasera, grazie, questo qua non è normale, non è normale. Esatto, comunque, esatto. Vabbè, diciamo, facciamolo passare come una cosa normale, va bene, dai. Dunque... Ti sei dimenticato la domanda fondamentale, Davide, era... Ma che cazzo ci faceva Salvini con un rosario a... Vabbè, che paese questo era, però, di io no... Il rosario, no, ma che c'entra? Ma quello c'è il rosario. Figurati quanto può piacere a me il rosario. Per me un politico che mette il rosario è una follia. Guarda, è una follia. Ognuno però, ognuno però, sono salito in macchina, scusami, ho Marco, ma ognuno porta quello che vuole. Cioè, quello porta il rosario, non è che uno lo devi andare a strappare solo perché c'è il rosario addosso, no? No, io ora ho lavorato tutto il giorno, non so niente, sono salito in macchina, ho sentito questa notizia qua. E la prima domanda che mi sono fatto era: ma che cosa ci faceva con un rosario in mano? Ma lo fa da una vita ormai. Ma era in chiesa, era da qualche parte, cioè che stava facendo? Ma no, in comizio fa sempre così, fermo là. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. La Zanzara. We'll be right back. Vai giù. Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024. Oppure se volete mandare i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393 71 71 701. Castel Sant'Angelo, Roma, ore 15. Si rivedono già i primi turisti camminare. La brezza che squarcia gli alberi. Il verde degli alberi osannato dai raggi del sole. E io ripenso a Gottardo che ha detto che ha visto il cazzo dei Cruciani. E penso al cazzo dei Cruciani. Prima ero frocio per la Zanzara. Guarda che mi sta succedendo piano piano, eh. Cioè io sto qui alle 3 e sto a pensare cazzo dei Cruciani. Boh, amico mio. Ciao, sono Francesco da Roma, ho appena pisciato in faccia a mia moglie, voto radicale, I love my radio. Perfetto. Ho rimesso questa cosa apposta, questo WhatsApp apposta, l'ho rimesso, perché la questione del pissing è fondamentale. Cioè non è che, come dice Parenzo, fosse il cazzo tuo fondamentale. No, ma quello no, quello è una tua follia, una tua follia. Cioè la questione del pissing è fondamentale. Cioè non è che chi pratica queste cose qui, chi fa queste pratiche, cos'è? È sovranista, come dice Parenzo o Grillino. Questo ti dà l'esempio, questo che ha chiamato, questo che ha mandato questo WhatsApp, questo è un esempio plastico che questo tipo di pratiche sono trasversali, sono trasversali. Non lo so, sai Giuseppe, perché se uno guarda cos'era Salò e le 100 giornate di Sodoma, 120 di Pasolini, ma che c'entra? Scusa, non ho capito. Che c'è il girone delle perversioni, anche quello della merda, in cui si ritraggono quelli di destra. No, capito, ragazzi, però non potete dire che certe pratiche sessuali, lo scambismo e il pissing sono di proprietà della destra sovranista, sentito, come dice Parenzo. Dai, chiacchiere alla D'Annunzio su Stalin, per esempio. Non te lo vedi Stalin che si fa pisciare addosso? Dite, cazzo, Stalin. Ma cosa vuol dire? D'Annunzio sì. Ci sarà un motivo, no? Dai, ragazzi, questo è abbastanza incontrovertibile, mi pare. Dai, su, ma siete ridicoli, dai. Siete ridicoli. Cioè, te lo vedi Berlinguer, no? Stalin sì. Ma cosa Hitler, c'entra? Sì. Ma non puoi. Tu dici che tutte le perversioni sessuali appartengono al sovranismo, mentre quelli non si fanno pisciare addosso. Ti ricordi Major, il leader dei conservatori inglese, fu travolto da uno scandalo, ad esempio, sessuale. Quello austriaco, come si chiamava, che è morto. Come la storia della violenza. Heidegger. No? La storia della violenza, ragazzi. Non parlate di Heidegger. State zitti un attimo. Porro si è scatenato contro Grillo, che ha spinto l'altro giorno un Porro giornalista. Una volta era un liberale. No, ma che c'entra? Qui sta dicendo era cresciuto alla scuola di Martino. Ma cosa c'entra? Porro, io Porro che si fa pisciare addosso, me lo vedo anche tra le altre cose. Potremmo chiamarlo e domandarglielo. Ma perché? Senti, Grillo che ha spintonato un giornalista di Dritto e Rovescio. Scatenato Porro, Ovviamente quando Grillo insulta e spruzza una medicina addosso a una giornalista di Rete4, ovviamente tutte le prefiche del politicamente corretto, dell'ordine dei giornalisti fanno zitti e muti. Quando Grillo dice che i giornalisti li vuole mangiare, masticare, vomitare, i giornalisti italiani fanno pippa perché sperano di beccarsi un programmino in Rai o pensano di lavorare tutti con Travaglio o con Circoletto. Questa merda, ieri sapete che cosa ha fatto? Ha dato uno spintone a un giornalista di Del Debbio e l'ho fatto andare in ospedale. Non lo trovate sui giornali, tranne che sul giornale e mi sembra sul Libero. Non lo trovate su nessun giornale. In prima pagina il leader del partito più importante di questo Parlamento manda in ospedale un giornalista che lo voleva intervistare, cosa più che lecita, e ovviamente i giornali italiani fanno pippa. Comunque ragazzi, qui mi rivolgo soprattutto a Parenzo. Dove state in questi giorni? Salvini aggredito da una congolese. Salvini aggredito da una signora congolese, sincera, democratica, sicuramente terzomondista, eccetera, eccetera. Promigranti che lavora per il comune di Pontassieve. Aggredito al grido di maledetto, che tu sia maledetto. Io ti maledico. Una mezza matta, sicuramente. Considerata una squinternata e basta. Piccolo caso, Grillo che aggredisce un giornalista di Del Debbio. Ragazzi, ma dov'è la violenza? Avete rotto i coglioni per mesi sulla violenza, la violenza politica. Beh, i fascisti, ragazzi, cioè, i fascisti, cioè, eccetera. Quelli dai, ci sono su, e ci sono stati. Dai. L'altra, la signora Ferragni, la signora, come si chiama? Ottima, Chiara Ferragni, che ottima, dice, per carità, brava, la stimo moltissimo, che però anche lei la stimo, ma può dire delle cazzate pure lei. Oggi ha scritto che è una violenza fascista quella contro Willy. Ma che cazzo vuol dire la violenza, beh, fascista? Sì, stampo fascista, ma squadrista, ma che cazzo dici? Uno, ma non c'entra niente. Tipica del fascismo. Ma era non quella, dire sicuro, puttanate, non è che le disse. Ma il non 4 dire contro 1, come no? Vinto, come no? Su. Come no? No, ha ma detto un'altra cosa. Mi pare che anche quell'ambiente in cui sia nata questa ma non questa dire stronzate, famiglia, dai. Il problema non sono le palestre e la cultura fascista. Ma che vuol dire, ragazzi? Ma che vuol dire la cultura fascista? Ma non vuol dire un cazzo, le palestre, perché non dici la stessa cosa? È la cultura nera, quella aggredito Salvini, alla cultura congolese, la cultura che cazzo ne so, ma che cazzo vuol dire la cultura fascista? Questi tra l'altro non so manco se erano fascisti o no, questi signori che hanno aggredito Willy, erano semplicemente dei delinquenti e violenti e maneschi, punto e basta, quelli che avevano il pugno facile. Dai ragazzi, non diciamo cazzate, su, il problema non sono le palestre e qui va bene, ma la cultura fascista non c'entra una sega, dai. Ecco, maledetti, la stessa cosa, quella di io ti maledico e maledetti. Alessandro da Lucca, vai. Grande Cruciani. Dimmi Alessandro, dimmi. Allora, come ha scritto Di Stefano sul suo profilo Twitter oggi. Chi di Stefano, scusa? Di Stefano chi? Mortale. Di Stefano chi? Di Casa Pound, di Casa, cioè, Pound. Tu vai a leggere le cose che di Stefano di Casa Pound. Vabbè, beh, sei un militante, allora, di Casa Pound, evidentemente. No. L'hai, allora, l'hai letto che... così. Va bene, dimmi. Quello che ha dato il calcio mortale mette, sì, in piace ai post di LGBT, Conte, 5 Stelle, Renzi, quindi è proprio tutt'altro che fascista quello che ha dato il calcio. Ma non lo so, ragazzi, a me non mi interessa. A me mi dispiace per quei coglioni di Parenzo che devono sempre mettere la politica come buonasera, ha fatto Morani, grazie per aver chiamato. Buonasera. Sì, però voglio dire, perché mettete in mezzo la politica sulla vicenda di questo Willy, perché che non c'entra prima, una sega? Non c'entra una prima sega. No, ed è Parenzo, vero, il primo, è Gottardo pure che rompe il cazzo su questi fascisti che certo, fanno aggressioni. Morani, dai, beh, giusto, una certa destra che istiga, no, la violenza. Scusami, posso ricordare, che erano i fascisti per primi durante, prima del ventennio, ma che c'entra, e negli anni venti ad andare in giro a nominare con i manganelli i 5-6 contro uno, le squadrazze, le hanno inventate loro, le camicie brune in Germania, le camicie brune facevano la stessa cosa, le brigate rosse con Aldo Moro quanti erano, ma quelli sparavano, era un'altra cosa. Era un'altra cosa, comunque, certo, va bene, allora, certo, va bene, parare, no, sì, non andava bene, no, la Brigate Rosse, ah, però erano i fascisti a minare in gruppo in tanti contro uno. Ma ragazzi, non diciamo cazzate, dai, Pierpaolo da Rimini, dai, Pierpaolo da Rimini, Pierpaolo, dimmi. La cultura è quella. Dimmi, Pierpaolo, dimmi. Niente, mi inviti a notte, semplicemente perché volevo intervenire sull'ultima. Non sento un cazzo, sei in viva voce, con l'auricolare, e mi hai già rotto i coglioni ampiamente se non ti metti in regola. Chiedo scusa, hai ragione, perdona, chiedo scusa, voce, questo chiede, perdona, scusa, chiede pure, dai. Vabbè, no, volevo dire che mi inviti a nozze, nel senso che volevo dire a Parenzo che questa sera ha comunque dimostrato la sua hai vera... la radio accesa, hai no, la radio. No, assolutamente, amico no, mio, no, dai, no, no, su, no, dai, dimmi, no, no, dimmi, vabbè, dai, dimmi, ti saluto, allora non ti, no, dimmi, forza, dimmi, questo è per Maloso, questo è per Maloso, si è offeso, ma cosa ti offendi, dai, Claudio, poi se la zanzara, su, Claudio da Prato. Complimenti Cruciani, grande Cruciani, più grande comico della storia, Cruciani e Giordano, sì, due comici da quando, guarda, ci siete voi, non guardo più sta Leolio, veramente. Guarda che non, Cruciani, cioè, non mi stai offendendo, no, se pensi di offendermi, ti sbagli. No, che ti offendo, ti do un merito, due grandi comici siete, che è Giordano, sì, ha visto l'inizio delle trasmissioni di Giordano, stupende. Dalle olio sono dei ragazzi. Vabbè, allora, ragazzi, e allora una volta che hai detto questo? Una volta che hai detto questo? Ti dico, secondo te Giordano la schiena diritta? Ma non lo so, schiena diritta. Ma prono con la lingua per terra. E te tu sei uguale. A chi, uguale, a chi sarei? A chi sarei proni? A chi? Posso dirti che la parte peggiore della trasmissione di Giordano sono le interviste ai politici. Sì, questo lo posso dire. Secondo me la parte peggiore della trasmissione di Giordano, Giordano, però serve per fare share, evidentemente. Bella, hanno la schiena diritta. Ma io non dico nessuno che c'ha. Guarda, amico, guarda Claudio da Prato, no, Claudio Prato, a me la parola schiena dritta oppure le l'enfasi su questa cosa, quello alla schiena dritta, è una cosa che non sopporto. L'hai detto prima, l'hai detto io. Chi l'ho detto? Cosa l'ho detto? L'ho sentito subito. Ma cosa l'ho detto? La schiena dritta, là, chi fa a 360 gradi le indagini. Sì, ti sto dicendo che abbia delle Claudio ha scoperto Claudio ha scoperto l'acqua calda, cioè che Giordano ha delle simpatie per la Meloni e per Salvini. Non fa un giornalismo schierato, ma perché non la fa? Chi? Allora questo è non avere la schiena dritta, caro il mio bel Cruciani. Ma non ho il mito della schiena dritta, io non me ne frego un cazzo. Non me ne frego un cazzo. Giordano la schiena dritta. Io ho detto, Certo, l'abbiamo sentito tutti, siete incredibili. Lo abbiamo sentito. Io ho fatto un paragone. Mi fate guarda, state olio, lo guardo giù perché sono dei ragazzi. Claudio, fermo là, non rompere i coglioni. Allora, la cosa fondamentale è questa. Io ho detto che la schiena dritta sul ministro Azzolina rispetto a quei due là, che non l'ha mai intervistato. E non li nomino neppure. A Hitler uscito dal McDonald's e all'altro signore qui presente che stava lì sulla sedia. E sul banco a rotelle con la panza di fuori, che non hanno detto nulla alla signora Azzolina. Nulla si è fatta coglionare la Azzolina per una stronzata, io il numero uno, e fanno bene a caccoglionarla. Fermo lì. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Io giro con Rosario, lo dico, vado in chiesa e prego. Io giro con Rosario, lo dico, vado in chiesa e prego. Prego, prego, prego. Ciao a tutti, grazie. Prego. Nella chiesa il sesso è onnipresente. Le suore fanno sesso, i preti fanno sesso, i vescovi fanno sesso, i cardinali fanno sesso, il sesso è onnipresente. Abbiamo 12 chilometri di spiaggia. Gianni, qua c'è bisogno di un grosso lungomare. E adesso facciamo una battutina per drammatizzare. Facendo un lungomare, Gianni, crescono attività, cresce lavoro e poi, se vi permettete, tutti quanti, come diceva il grande Abbanese, io vi prometto più Pilo per tutti, Pilo a mazzette. Se mi voterete ci sarà giardini di Pilo, parchi di Pilo, tutto di Pilo. Evviva Pilo, o Pilo, o Pilo! Pilo per tutti. Lo lancio qua, io sono matto, sono un comico, sono chiunque, però vorrei capire se si può fare, per esempio, per una città come Roma, fare un database di tutti i dati dei romani, della metropolitana, della stazione, dell'aeroporto, di come si muovono, tutti i dati dei romani in un database in mano al comune di Roma, e ogni volta che una società di marketing vuole dei dati sui romani, paga, e questi soldi vengono ridistribuiti ai romani. Sarebbe un modo di finanziare la capitale d'Italia senza gravare sul debito, anzi finanziata dai romani stessi. Un miracolo. Per l'amor di Dio, le cose sono queste. Non è tanto la velocità, il 5G o 6G, ci sono altre tecnologie che arrivano. E internet, forse è vecchia. Forse è vecchia, se io ogni 31 dell'anno mi si intasa e un MS arriva il giorno dopo, un SMS, oppure si intasa. È vecchia, forse è vecchia. Anche forse c'è un'altra tecnologia di cui magari hanno paura alcune aziende, mega aziende hanno paura. C'è qualche altra tecnologia, magari tecnologia? L'Wi-Fi. Cioè la trasmissione di dati attraverso la luce piuttosto che attraverso l'onda radio. La luce ha uno spettro di 10.000 volte superiore. una velocità, la trasmissione di raggi sulla luce pari a 250 volte il 5G. Allora puoi trasmettere tutto, puoi trasmettere in 3D. Noi il nostro cervello è 3D, tre dimensioni. Noi guardiamo il mondo con tre dimensioni, il nostro cervello ha tre dimensioni e i nostri bambini studiano a due dimensioni, sul foglio, sull'appiattimento dello schermo. Ci può essere una trasmissione via luce? Perché via lo luce. Fa Macron? Stanno sperimentando questo tipo di tecnologia attraverso la luce, l'hi-fi si chiama, per i ciechi della metropolitana di Parigi. Appunto, per i ciechi. Si collegheranno con i LED che ci sono e il cieco avrà un segnale sonoro che gli dirà il percorso. Lo stanno facendo. Questo è il capo di un partito politico in Italia che governa con voi, con persone dello stesso partito che con voi. Ma io non governo niente. Sì, io non governo vota nulla. Questo qua, voi siete alleati. Voi, Gottardo e Parenzo, comunque, siete dice alleati. Comunque non dice delle cose di per sé sbagliate. Sentilo. Che le nuove dice tecnologie cose vecchie. Che le nuove tecnologie non sono neanche Parenzo, non sono neanche tecnologie nuove. L'ha fatto il professor Barbieri 20 anni da Roma. Fa alle Azzorre, quello della luce. È una cosa vecchia di 20 anni. Amedeo da Roma, vai, dimmi. Amedeo, dimmi. Pronto, ciao Bruciani. Dimmi. Senti, volevo dirti una cosa sul banco a rotelle, banco con le rotelle. No, ragazzi, banco con le rotelle non lo posso vedere. Io vorrei bruciare tutti. Per bruciare la sanificazione dell'aula. Ma non rompeteci i coglioni. Per il distanziamento più che altro. Il banco, magari anche io non lo so, ma c'è un altro paese, Parenzo, tu per sei i bidelli che fanno queste operazioni ti chiede tantissimo tempo. Ma ragazzi, ma non rompete il banco con le rotelle. Consente una sanificazione dell'aula, specialmente necessaria se la devi ripiegare anche più volte al giorno. No, è una no. cosa molto semplice, cioè è una regione che tiene conto del lavoro dei bidelli. Ma fondamentale, no, io non tengo conto di un cazzo, non tengo conto della necessità di sanificare i locali e i banchi stessi senza il tempo minore possibile e senza aggravare di un lavoro assurdo. Senti Antonio, come ti chiami? Amedeo, scusami un attimo, non siamo a speciale scuola qui, dunque non ce ne frega un cazzo. No, io dico solamente una cosa, immaginare che non lo dico più che a per me te non me Giordano, ne frega niente, perché per sanificare il banco con rotelle di Giordano forse ci vorrà qualcosa di diverso dalla mucchina, magari l'acido solforico. Ciao Luciani, vaffanculo, va, ciao. Alessandro dalla provincia di Firenze, vai. Alessandro dalla provincia di Firenze, dimmi. Fra poco, ragazzi, chiamiamo un personaggio incredibile che promette delle cose pazzesche. Si chiama Rolando Poeta. Rolando Poeta, amico. Tu sai già di chi parlo, Gottardo, per questo te la ridi. Te la ridi. Sai già di chi parlo. Un personaggio, pensa te, altissimo, che mi ha suggerito il signor Giordano. Che strano. Vi faccio strano, subito una premessa. Questo signore fa un collegamento tra il sesso anale e le carie dentali. Vi dico solo questo, oltre ad essere un negazionista del Covid, fa anche un collegamento tra le carie dentali, attenzione a quello ma che vi dico, c'era. E il sesso anale. Ma non era la figa anale che era dentata in un film? Ragazzi, non lo so. No. Alessandro dalla provincia di Firenze, vai, dimmi. Pronto? Dimmi. Allora, senti, premetto subito che io all'ultima elezione non ho votato 5 Stelle, Salvini, Meloni. Sì. No, però. Però siccome si sta parlando di violenza, se no il fenomeno di Parenzo mi dice che lei ha votato il c'è gente qui che dice che è una matta, io ti dico cosa è successo, cosa sta succedendo in Toscana, perché Salvini sta facendo campagna elettorale con la Ciccardi. Sì. Allora, normale, cosa normale? Cose normalissime. Sarà possibile fare la campagna elettorale? Ma certo. Borgo, era a Borgo San Lorenzo, ti dico anche dove, un paese. Allora, che è successo? Che è successo che dalle finestre dei fenomeni hanno cominciato a gettare secchi di acqua. Ma sì, ma succede sempre. Ma l'ho capito, ma io voglio vedere quando Gianni verrà a fare la sua campagna, voglio vedere cosa succede. Ma sì, ragazzi. Ma per mi vergogno dei miei concittadini. Il punto fondamentale è che ne succedono di tutti i colori. Io adesso non voglio fare l'avvocato di Salvini o quello che. No, né voglio dipingere Salvini come una vittima. Però, ragazzi, se uno va a vedere gli episodi di violenza dei comizi dei leader, dall'altra parte non succede nulla. Non succede nulla. Niente, non dice, non niente. Perché ma non perché gli altri sono più buoni. Ma perché ma c'è una ridere, specie di mobilizazione antifascista? Quando Gadlener è andato alla festa della Lega per raccontare, è stato spintonato, insultato, ma massacrato. Ma che massacrato? Ma massacrato, spintonato. L'hanno mandato a fare il culo. Fermi tu. Rolando Poeta. Arriva, arriva, arriva, arriva. Ragazzi, fatemi sto numero, dai. Forza con sto numero, dai. Parlo con Rolando? Sì. Oh, caro Rolando Poeta, sono Giuseppe Cruciani da Radio 24, come andiamo? Cruciani, lei non ci crederà, ma io conosco televisivamente e sono contento che parlo con lei, ecco. Perché ho molta stima, mi piace per il suo coraggio, per la sua personalità. Complimenti. Grazie, questo, grazie, grazie. A me basta così, non ho altre domande. Scusi, promette bene, promette bene. Allora, caro Rolando, io ho letto delle cose che lei scrive sul suo sito. Innanzitutto, diciamo la verità, lei è uno scienziato, prima cosa, giusto? Sì, grazie. Uno scienziato? Sì. Ha inventato il MOSE, mi sembra di capire, no? Cosa che, sì. Sì, cosa che non è stata riconosciuta da, certo. Lei è uno scienziato e inventore, possiamo dire così per riassumere, sì, la cosa. Sì, anche filosofo, e aggiunga, anche filosofo. Sì, filosofo. E dunque, matematico. Anche, scienziato, magari. Inventore e filosofo. Ci siamo? Ma è anche Pope? Anche Pope? Scusi, poeta. Altre cose ha detto? No, no, no. Scusi, poeta, ma è vero che secondo lei il coronavirus è un'invenzione per controllare il pianeta, un tentativo di alcune lobby o no? Sì, assolutamente. È tutto falso. Cioè, mi spieghi? Cioè, praticamente la Terra poteva stare tranquillamente così come andava, con il suo equilibrio. Sì, poi, siccome dei grandi gruppi tendono a controllare il mondo, esercitare il nuovo ordine mondiale, non sapevano come fare, che cosa hanno fatto? Hanno usato un virus comunissimo, no? Come il coronavirus, che era sostanzialmente innocuo ma diffuso. In tutto il mondo da 30 anni. Sì. Nel senso che chiunque avrebbe potuto rilevarlo, come lo stanno facendo adesso, già 10 anni fa, 20 anni fa, uguale. E allora cosa hanno fatto loro? Dice: noi spargiamo la notizia che questo virus è così buono, così innocuo, però è stato un po' leggermente modificato, per cui potrebbe essere pericoloso. Quindi state attenti. Sì, sì. Oddio, come dobbiamo fare a stare attenti? Come dobbiamo mettetevi fare? Delle mascherine. Ma quali mascherine? Te le do io le mascherine, quelle giuste. Sì. In quelle mascherine c'erano già altri virus, non pure. Dico uno o due virus, come ma tanti possibili virus selezionati militarmente, quindi di cui sapevano tutto, la loro pericolosità, in modo che qualcuno, respirando attraverso le mascherine, si infettasse. Questa, scusami Rolando, questa è la tua tesi, cioè dire alcune lobby per controllare le persone, per controllare il pianeta, per infettare le persone, hanno fatto passare l'idea di questo virus che in realtà già c'era, hanno preso delle mascherine, dentro queste mascherine c'erano dei virus prodotti anche militarmente, poi? Questo qui era soltanto l'inizio, perché poi dall'istante che si è rilevato che qualcuno si ammalava gravemente, allora le persone più edotte, quelle più furbe, dicono: ma vogliamo vedere se per caso sono stato già contagiato anch'io? E il medico pronto gli dice: senz'altro si può fare in modo molto facile, anzi glielo consiglio, facciamo il tampone. E così praticamente con il tampone anche quelli infettati, come vogliono loro, messo dentro il corpo degli individui tutti i veleni, tutti i virus possibili e immaginabili, facendogli credere che in realtà il tampone prendeva soltanto il mucco. Quando tu dici loro, tu ti rivolgi, chi sarebbero? Chi c'è dietro? Questo è il punto. Guarda. Evidentemente uno che fa un'operazione del genere non ti dirà mai sono io. Sono, spero. Ecco, quindi sono dei poteri, le famose associazioni segrete dei plenipotenziari del del mondo, sì, perché, ma soprattutto sono i più grandi finanzieri, dentro c'è anche le grandi industrie farmaceutiche, sì, perché in ultima analisi chi ne trae vantaggio sono le case farmaceutiche. Sì, dunque tu mi stai dicendo che ci sono, come al solito, è inutile, abbiamo un elenco qua davanti, i Rothschild sicuramente, no? Bravissimo, Soros. Tutti, Rockefeller. Ma non saprai mai, Gottardos, famiglia, c'è anche Gottardos. No, ma posso chiedere, signor poeta? No, aspetta, c'è un altro, Bill Gates. Quando ci sono queste grandi riunioni capi di Stato, automaticamente c'è poi un colloquio riservato in cui tutti fuori e parliamoci nelle orecchie. A quel punto chi ha il potere gli dice alla pecorella senti, noi dobbiamo fare così e così, succederà così e così, tu sei d'accordo? Perché se sei d'accordo avrai questo vantaggio, se non sei d'accordo ti taglieremo la testa, sei d'accordo? Sì. E così tutti questi capi di Stato segretamente con i massimi potentati ricevono ordini, da tipo immagina Conte, che ha avuto l'informazione, cosa ha fatto? Bloccare totalitaria. Ma chi te l'ha detto? Come mai sei stato così bravo? Mi spiego, chi ho avuto già chi l'ordine di fare quel discorso. Chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha detto? Chi gli ha ordinato? Non lo saprai mai. Non lo sapremo mai. Non ma lo secondo e te. Lei lo sa? Secondo te. Lei lo sa, tra l'altro, secondo te chi è stato? Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Chi è stato? No, no, io non lo so. Ma lo devi sapere. Ma lo devi sapere. Ma lo devi sapere. Come sa? Scusa, è tutto vago. Hai detto che ci sono dietro i poteri forti e dici che è una cosa vaga. Sono cose vaghe. Bisogna fare nomi e cognomi, cazzo. Rolando, nomi e cognomi. Scusami un attimo. Io ho detto lì, ho detto nel mio articolo che ci sono fior di investigatori con le palle che, come in qualsiasi delitto, possono indagare, indaghiamo. Basta che indaghi la strada che segue un tampone, la strada che segue le mascherine. Basta che tu, come dire, segui questi percorsi, segui la strada di chi ha avuto vantaggi, chi ha avuto ordine da chi, e il gioco è fatto. Quello che io contesto è sicuramente il fatto che i giochi sono fatti. Perché automaticamente di questo programma che cosa fa parte? La terrorizzazione della popolazione. Ha fatto vedere come muoiono così misteriosamente migliaia di persone. Poi c'è l'imbroglio dei famosi contagi, che praticamente non sono contagi, non sono niente, capito? No. Sono assolutamente niente, ma te li fanno passare per contagi, come gravi malattie. Hai capito? Scusi. Quindi la gente dice milioni di contagiati. Le posso chiedere una cosa, professore? Oddio, salvateci con il vaccino. Però c'è una cosa molto interessante. Tu dici che c'è una correlazione, anzi no, tu sei contrario al sesso anale per un motivo ben preciso. Me lo vuoi spiegare? Perché questo è molto interessante. Forse più interessante della questione dei vaccini. Il discorso del sesso anale non è che io entro in merito al sesso anale. Non ho detto questo discorso. E qual è? Io ho detto che c'è una correlazione tra il rilassamento diciamo dell'ano e le malattie dentali, cioè la carie. Malattie dentali. Quindi che io non sono entrato in gay, non quanto, gay, eccetera. Quanto lungo eccetera. È? Non l'ho capito bene. No, dico, qual è la correlazione tra carie e rilassamento anale? Non l'ho capita bene. Qual è la correlazione? Allora te la spiego. Immagina che il corpo umano sia una specie di fortino in cui c'è un portone grosso ben difeso per l'ingresso delle merci, dei soldati, delle truppe, no? Ok? E però in tutti i forti, in tutti i castelli c'era anche delle porte attraverso cui si buttavano via gli scarti, le immondizie, va bene? Ecco, allora ti immagina che questo castello super fortificato, come dire, gli lasci una porticina dietro dove tu butti via le cose, che però è praticamente accessibile. Allora ti rendi conto che tutte le difese che tu hai approntato nel portone principale, che in questo caso per analogia sono i denti, non servono a niente, perché la gente entra da dietro, quindi tutte le difese che è davanti non servono a niente. Dunque, allora l'organismo dice, ma se tutto entra da dietro, dice, e quindi le difese non servono, queste difese che io posto nel portone non servono più, quindi i denti vengono cariati perché sono inutili, allora, considerando il comportamento dell'individuo che lascia le porte aperte di dietro, allora, porte andiamo a spiegare per entrare del castello, tutto qui. Andiamo a spiegare la cosa, dunque, se tu fai entrare, se uno fa sesso anale, questo è il punto fondamentale, inserisci nell'ano qualcosa che non dovresti inserire, perché naturalmente non c'è il modo, no, di porre riparo, cioè non è, l'ano non è portato ad accogliere, no, questa è la tua tesi. È una reazione immunitaria. Non ho capito, scusa? È un contro natura. Ma io non riesco ancora a capire però come si arriva alla carie, perché i denti si dovrebbero cariare se uno fa... Te lo ripeto, la questione sta nella funzionalità delle cose che costituiscono l'organismo, cioè ogni cosa dell'organismo ha una sua funzione. Questo non c'è dubbio. Voglio capire, se uno lo prende in quel posto, perché si dovrebbe cariare i denti? Questo non capisco. Perché è come tu fai riferimento al famoso castello che ti ho detto. Sì. È inutile che tu davanti ci metti dei denti forti, cioè praticamente dei soldati forti, agguerriti, che nessuno può entrare dal portone. Sì. Quando nel castello c'è una parte posteriore dove chiunque può entrare con facilità. Ah, ho capito, cioè siccome entrando da dietro si indebolisce il corpo e dunque anche i denti a protezione, cioè è questo il punto, no? I denti non servono più perché non serve più una difesa, perché l'organismo, perché il nemico, l'ambiente esterno, il nemico, chiamiamolo il cartello, può entrare facilmente da dietro, quindi deve ristrutturarsi tutto. Dunque se uno ha dei denti cariati è molto probabile che l'abbia preso in culo, diciamo. Sicuramente. Mamma mia. Non ha inventato il Mose questo qui? No. Questo spiega tante cose. Tu stai creando un danno, Cruciani, al Veneto enorme. Tu hai detto che sto signore qua ha inventato il Mose. L'ha detto lui. Ha inventato questo qua, ha inventato il Mose. Questo signore è da rinchiudere subito. Scusami, Rolando. Buttate via il Mose immediatamente. Hai veramente inventato il Mose? State distruggendo Venezia. Vergogna. Hai veramente inventato il Mose? Allora, se per te un brevetto di invenzione certificato dal ministero in cui c'è scritto c'è la descrizione, c'è i disegni di come è fatto il Mose, se per te la partecipazione al Costanzo Show in cui io Assolutamente, cioè, io mostro il Mose come doveva essere fatto, dopo 5 anni praticamente lo fanno, tu cosa dici, che sono stato io l'inventore? No, perché comunque la conclusione è questa: se tu dovessi consigliare qualcuno se fare sesso anale o no, lo sconsiglieresti? Questo è il punto fondamentale. Non ho capito, se io dovessi consigliare qualcuno per fare sesso anale, lo sconsiglieresti, diciamo, cioè la cosa guarda, parliamoci chiaro. Allora, prima di sulla sessualità c'è una grande confusione e una grande ignoranza. Allora, tanto per cominciare, la bisessualità c'è in tutti gli esseri, sia animali che umani, e la si vede dal naso è inclinata la sua sommità. Guardando un naso di una qualsiasi persona, puoi sapere quanto e dove e in che situazioni è maschio e femmina. Non questo lo puoi vedere scritto. Dove? Sul mio sito psicocasia.it. No, psicofarmaci da prendere subito.it. Poeta. La volete mettere per forza così? Io non so, dimostrate solo di essere Rolando, carini, Rolando. Sto parlando seriamente. Ho capito. Ma se una cosa è seria, uno la può capire, e allora è intelligente. Se non la capisce, non è la cosa è sbagliata, perché lui è scemo. Scusami, qual è il naso bisessuale? Allora, il discorso è questo: che il naso, il dorso nasale, se tu lo guardi, non è mai diritto, va bene? La sommità del dorso o è inclinata a destra o è inclinata a sinistra, oppure sinuosa, un po' a destra, un po' a sinistra. Ma dimmi... è per questo che una donna in certe situazioni gode, in altre situazioni è frigida. Questo è il nostro discorso, perché cambiando gli ambienti cambia l'inclinazione del naso di quella donna in quell'ambiente. No, per capire, questo è interessante. Cioè, dire una donna che è frigida oppure una che gode, lo si nota anche dal naso. Cioè, puoi capire puoi capirlo prima. Questo è bellissimo. Fosse vero, sarebbe straordinario. Cioè, tu prima di scegliere una persona vedi il naso, se è in un certo modo è frigida, se è in un certo una persona che che quando guardo davanti so già chi è, ecco, capisce? E qual è, può dire qual quello è? Che vuole e si sa già cos'è. Ma per esempio un personaggio famoso del naso, cerca di farmi capire, per esempio uno... per esempio Parenzo, il naso di Parenzo. No, ma che no, lascia perdere, lascia perdere Parenzo, ma guarda il naso del Papa, guarda il naso del Papa che è sinistra. E allora questo discorso naso... e allora lì che c'è tutta femminilità. Ah, beh, interessante questo. Il Papa del naso inclinato a sinistra. Ma tu guardi il naso del Papa precedente, di Giovanni XXIII. No, quello, come si chiamava? Wojtyła? Sì. No. Il Papa Wojtyła? No, non è precedente. Ma questo te lo dico. Benedetto. Per farti capire sì. Soltanto le inclinazioni del naso, come giocano sulle persone. Dunque, se tu guardavi Wojtyła, era una roccia, fortissimo, sì. Maschio al 100%. E infatti avevi un naso tutto a destra, Wojtyła. E Papa invece? Questo qui invece è un naso a sinistra, molto più molle, questo è il concetto. E una donna che è invece chiara è una di quelle che gode moltissimo, una frigida, facciamo un esempio. Ma il discorso di una donna gode quando nell'inclinazione è del naso a sinistra, facciamo finta, le donne puttane, per intenderci, hanno la parte superiore del naso, quella alta, la zona vicino al naso, che è inclinata a sinistra, quelle sono puttane, perché in quella zona c'è l'ambiente iperforte, c'è la moltitudine, quindi vuol dire che c'è una femminilità di quella donna, è una femminilità espressa verso la moltitudine, verso il popolo, verso tutti. E chi è che spiega la femminilità verso tutti? La puttana. Amico mio! Cioè dici la donna troia, la donna che la dà a tutti, la donna che piace a noi, ha l'inclinazione della parte alta del naso a sinistra, giusto? A sinistra, quella è la puttana. È la svolta questa. Questa e lei è conferma, la svolta. E lei mi conferma invece, che, la donna, che apprezza Cruciani, giusto? La punta del naso a destra, nella punta, allora vuol dire che ha bisogno di un ambiente debole, bisogno di essere trattata bene, riverita, e servita, mi conferma, amata, dottore, che cioè, praticamente deve avere anche a sé un uomo esclusivo, soprattutto fedele, docile, dominabile. La donna frigida come si riconosce? Questo è il punto. Una donna frigida è quella persona che ha il naso a destra, facciamo finta quella cantante rock, quella ragazza donna, come si chiama, bravissima, come si chiama, mi sfugge il nome, la Toscana, come si chiamava? Ma chi le conta? Ah, Gianna Nannini. Tu guarda il naso dove ce l'ha. Ha un naso tutto inclinato a destra. Cosa vuol dire? Che è una natura totalmente maschile. Comunque la cosa fondamentale mi sembra sia questa. Io riesco a capire se una donna è puttana, se una donna è troia, dalla parte alta del naso. Questo mi sembra fondamentale. Se lo prendi in culo ti si carino i denti. Mi sembra di capire anche questo, che sia una certezza assoluta. Grazie maestro. Grazie maestro. La zanzara. Poesia della notte. Volevo essere aperta. Volevo essere aperta proprio come fossi io una finestra. Volevo essere rotta così da camminare poi tutta storta. Volevo essere riempita come un bicchiere il 15 agosto di granita. Volevo essere inondata dalla sera alla notte inoltrata. Ti voglio aprire, se il pistillo sussurrò. E così ad un tratto ad immaginarmi a pecorina e pregherò. Coprimi pure di una coperta bianca. Ho voglia di dormire, ora sì che sono stanca. Che voglia di cazzo, mamma mia! Ragazzi, ditemi che la Saulino che avete sentito prima, non con la voglia di cazzo, ma in quella declamazione, non è un genio. È un genio di Pascoli. Meglio di Pascoli. Esatto, meglio di Pascoli. Dovrebbero insegnarla a scuola. Ma per carità. Io sarei per insegnarla a scuola. Cavallina storna, che portasti colui che non ritorna. Ma come si fa a mettere su una secchia? Che abominio. Meraviglioso. Altro che la pargoletta a mano del cazzo e il verde melograno. Cioè, Vermigli Fior. No, meglio, meglio la Paolina, la Saulino. Ragazzi, scusami, posso dirvi una cosa? Il personaggio che abbiamo ascoltato prima, è il signor Rolando Poeta, mi ha fatto nascere un sospetto. Mi ha fatto un grave sospetto. Io sul funzionamento dei centri di igiene mentale mi ha fatto nascere un sospetto. Sì. Ma ragazzi, è questo. Ma se che avesse tragedia. Ragione lui, cioè, come? Che se veramente ci fosse un collegamento tra prenderlo in culo e le carie dentali, beh, questo spiegherebbe i tuoi denti, per esempio. Ma tu hai denti cariati? No, io ho un po' di denti cariati, cioè sono uno che è soggetto allora, a carie, eccetera. Ma in culo non l'ho mai preso, per esempio. Che tu sappia, che tu sappia. E poi questa storia qua, però, è molto interessante. Questa storia della donna col devo naso, col naso proposito... che va verso sinistra, con la parte alta del naso storta verso sinistra, che è una porca, una puttana. Devo dire che è il top assoluto. Devo citare Rolando in questo caso Poeta, un grande intellettuale che è Angelo Bellone, che è un dirigente della RAI, che scrive su Facebook: ascolto alla Zanzara un tizio che sostiene la correlazione tra sesso anale e carie dentali, punto, per oggi è tutto, punto. Questo è il grande Angelo Bellone. Intanto, signor Bellone, ascolta questa trasmissione grandissimo invece Bellone, di ascoltare la quelle della sua azienda. Precisiamolo. Non ti può dire, no, lui ascopassa da una parte all'altra per capire cosa succede nel mercato. Giuseppe, riflettendoci, io la donna più porca che abbia mai conosciuto in vita mia si era fatta operare della deviazione del setto nasale. Questo che cazzo c'entra? Seguendo le teorie del poeta, adesso lo chiamerò il poeta a sinistra. E non è il poeta Dante, ma è Rolando Poeta. Il poeta sostiene che, ripeto, che la donna porca, puttana, disponibile con tutti, che a noi piace oggettivamente, piace. Almeno a me piace, Parenzo. Sì, certo, non lo so. Ma cos'è? Ma che deviazione della parte alta del naso verso sinistra. Guardate bene prima di approcciarvi a qualcuna. Tiberio da Milano, conversazione. Ma che tipo uno di conversazione? Peraltro era un negazionista del Covid, ha detto un passato. Tiberio, dimmi. Ciao, Brucio. Ciao, io avevo una domanda così, a parte bellissima la metafora del signor Rolando del castello, il fortino, l'organismo, stupendo, libro d'antologia direi. La domanda è, ma se l'organismo fa questo meccanismo di protezione per le quali i denti si cariano, allora a logica dovrebbero crescerti i denti nel culo? Sì, cioè, in teoria sì, però lui dice: non essendoci quelle protezioni, non è giusto introdurre cose esterne. Dunque, sostiene il poeta, io lo chiamerò da questo momento in poi il poeta. Il disturbato, forse è meglio. Sostiene il poeta che, non essendoci quelle protezioni, come i denti davanti, che invece stritolano probabilmente il cibo, e quando viene introdotto, i denti lo stritolano. Al contrario, nel culo non nulla può essere stritolato. E dunque. La cosa produce danni, sostiene il poeta, che è un po' De Mariano che da questo sostiene punto di Pereira, vista. Sembra, come ma la non De è Mari, quello. Come la De Mari. Lorenzo da Milano, vai Lorenzo da Milano. Dimmi Lorenzo. Ciao Cruciani, volevo fare una domanda al traforo del Gottardo e al tuo amico denti cariati. Sì. Chi è? Io non ho nessun dente cariato. Sì. Cazzo, figurati, se sei lì in televisione e in radio sicuramente. Io non ho nessun dente cariato. Vuole dire che lo prendi in culo. Non avevo capito la sottile ironia. Questo imbecille. Non avevo capito. L'ironia allora, di questo imbecille al traforo del Gottardo e al cariato una cosa. Dimmi. Visto che parlano di violenza fascista. Dimmi. Ma loro sanno chi sono i Katanga? Ma sì, certo che lo sanno. Dai certo Katanga, fuori la spranga, come no? Dai Katanga, fuori la spranga. Senti come si esalta quando sente queste cose. Senti Katanga, come si esalta. Come no? Certo. Dicono che la violenza Katanga, è solo fascista, che vuol dire? Certo. Katanga, la violenza è da tutte le parti e i Katanga insegnano. Ma i Katanga non esistono più. Gli anni 70. I Katanga non esistono più. Gli anni 70. Come nome non esistono più, ma ci sono ancora. Dai, durante Katanga, le manifestazioni. Ma che cazzo vuoi spranga sapere tu, bigolo? Sto povero. No, ma litigate su cosa? Ma litigate sugli anni 70. Hai preso una spragnata in testa tu negli anni 70, ma no, solo perché eri scemo da prima, non perché avessi qualche idea politica precisa. Sono riuscito anche a darle, il bello è quello. Quindi tu sei un vincitore di destra, invece. Che è un estremista di destra che dava sprangate, mi sembra di capire. Non lo so, non lo so, tu? Ma non mi permetterei mai. Tu mi sa che sei un amico del barone, come si chiama il barone nero, l'altro barone nero che ha accusato di fascismo. Il barone rosso. Secondo me sei amico del barone nero, lo Yonghi Lavarini, il barone nero Yonghi Lavarini. Che bella compagnia, però, che bella compagnia. Come si dà sempre la colpa alla violenza fascista. Ciao, ciao, allora, mi rotti coglioni, ciao. Voglio sentire Paolo da Venezia, vai Paolo, dimmi. Paolo, ciao. Dimmi Paolo. Un saluto a tutti. Sì. Come ti avranno detto, io sono un medico. Siccome l'altro giorno era venuto fuori qualcosa sui discorsi sui vaccini, però non voglio troppo far diventare seria la trasmissione. No, per carità, va bene, così Parenzo è contento, Gottardo pure, no, anzi Gottardo non gli frega un cazzo. No, dimmi, medicina Paolo, dimmi. 33, mi rompo le balle. Sì, anch'io mi rompo i coglioni. Dimmi, qual è la storia, dimmi. Estrema simpatia per Gottardo e per Parenzo. Vabbè, dimmi Paolo, dimmi. Allora, innanzitutto c'è una grossa confusione. Sì, si è parlato adesso che vogliono fare i vaccini obbligatori o comunque consigliarli a tutti, i vaccini influenzali, anti-influenzali. E tanti pensano che serva per il coronavirus. No, attenzione, Parenzo sostiene che bisognerebbe vaccinare tutti quanti quelli della scuola, dal personale amministrativo agli insegnanti agli studenti, perché in questo modo sarebbe più facile scoprire chi è malato di Covid. Questa è la sostanza del discorso. Ma è una puttanata. Ma no, in realtà il concetto è questo: la vaccinazione va fatta perché devi evitare la sovrainfezione, perché se tu becchi un'influenza e becchi anche il coronavirus, è chiaro che la possibilità di morire è doppia. Ragazzi, io non lo so, so solo che non ho mai fatto il vaccino anti-influenzale, non me ne frega un cazzo, non me ne può farlo. Ma non lo faccio, manco per il cazzo. Sì, no, ma che me ne frega a me? Sono campato benissimo fino adesso senza vaccino anti-influenzale, perché me lo devo fare? Benissimo un corno. Benissimo, io non prendo quasi mai l'influenza, che cazzo me ne frega, la prenderò una volta l'anno quando è troppo. Perché hai talmente preso tante malattie legate alla sessualità, che probabilmente hai creato una panoplia di... Sono talmente marcio che a me, quando incrocio il virus, esatto, se non voglio dire, mi tocco anche i coglioni, perché se uno lo dice troppe volte è capace pure che domani mi prendo il Covid. È vero che il Covid arriva di fronte a me e si spaventa, come diceva una volta, come diceva Sgarbi per la cocaina, cioè lo posso dire anch'io per la cocaina, sono talmente eccitato che la cocaina si eccita quando, e non mi, la, cioè, quando mi vede si eccita, capito? Questo è il punto, cioè Sgarbi sostiene quando, comunque, quando la cocaina mi vede si eccita. Il virus non c'è. Scusi, nelle mie terapie intensive, l'ho detto mille volte, non c'è nessuno. Oggi lei ha litigato anche col Corriere della Sera, ho letto da qualche parte. Ma il Corriere della Sera continua a sostenere che il virus non c'è. Ma lei si è pentito o no? Lei non si è mi pento di niente, nelle mie ha contribuito intensive. Un po' a di leggere, ma a un, no, ma non al fatto è così, che molte persone abbiano affrontato con leggerezza quest'estate. Ma no, ma quale leggerezza? Il virus è morto, non c'è. Ma le dico di più, sì, a San Raffaele abbiamo sconfitto l'infarto e l'ictus. No, l'altro giorno è arrivata una possibile persona con la moglie da me al San Raffaele, era mezzo malandato, in ambulanza, aveva una parte del braccio bloccata. La faccia, la faccia bloccata, non si muoveva, e per secondo la moglie era chiaramente affetto da ictus. Da ictus, no, ictus, perché era tutto bloccato a metà e parlava male. Anch'io gli dicevo come si chiama, non parlava, e la moglie diceva ma ha fatto un ictus. Io ho detto non c'è l'ictus, ma infatti perché? Ho detto sarà semplicemente stressato, se ne vada. Nella mia terapia intensiva non ci sono persone perché malate, non l'ha fatto curare? Non ci sono, perché è uscito, se n'è andato, non ne ho più sentiti, non sono più sentiti, non ne ho più sentiti. Questo dimostra che nella mia terapia intensiva non ci sono malati, non c'è il virus, ma non certo c'è il infarto, nessuno, non c'è ictus, lei. Non c'è... Esatto, quando uno arriva io gli dico guarda, apro la porta e dico terapia intensiva, il non CTS, c'è nessuno, il CTS, il abbiamo comitato tecnico. Sconfitto il virus, ma è il comitato tecnico e scientifico che dice ancora che esiste l'ictus. L'ictus non c'è, non lo vedo. Questo signore era completamente paralizzato da una parte, il braccio indubbiamente non si alzava, gli ho detto dai tachipirina, ti fai un bel giretto del San Raffaele a piedi nel giardino e ti riprendi. E la moglie disperata diceva no sta male, lo ricoveri. Io ho detto non posso ricoverarlo perché non c'è il virus, non c'è l'ictus, è finito, sparito, lo abbiamo sconfitto al San Raffaele. E infatti allora... in terapia intensiva non c'è nessuno. Oddio, la morto, signora però. disperata ha richiamato un'altra ambulanza e è andata via, dimostrazione che non c'è problema, che il virus non c'è. Grazie. C'è una signora leghista, assessore a Como, la quale c'è un video che circola in maniera abbastanza virale, su un assessore della Lega, credo a Como, della Lega, credo. Un assessore di che cosa? Della Lega a Como. D'accordo, a Como, la quale va la mattina in un posto, in un porticato a liberare questo porticato che deve essere sanificato, prende la coperta, l'assessore prende la coperta dove c'è un immigrato, dove c'è un immigrato, e gliela toglie e la posa sul giardino. Cioè praticamente l'immigrato barbone extracomunitario, immagino, dorme lì sotto il porticato. Lei prende questa coperta, gliela strappa, lo sveglia e la butta. Grande scandalo. Il razzismo dell'assessore. Chiamiamola. Sì. Buonasera, assessore. Chi parla? Sono Cruciani, buonasera, Radio 24, come sta? Sì, buonasera, guardi, non posso parlare, sono in una riunione. Ma che è successo oggi? La stanno attaccando su tutti i fronti, che è successo? Guardi che c'è un comunicato stampa. Sì, non lo so, l'ho letto, ma noi siamo la radio. Ma scusi, lei dice che è una campagna, che sta, c'è una campagna contro di lei? Che... Ma chi dice che c'è una campagna contro di me? Le pare di aver letto una cosa del genere? No, una campagna contro di lei, che è stato strumentalizzato il suo gesto. Che è stato strumentalizzato il suo gesto, quello ha detto. Viene strumentalizzato il suo gesto, giusto? Io ho detto, i fatti sono questi, punto. Sì. No? Sì, i fatti sono questi, però lei la coperta l'ha tolta, quella coperta si vede dal video, l'ha tolta. È andata... E lei ha letto che cosa scrivo rispetto alla coperta. Certo che è una, che bisogna sanificare la zona, che bisogna sanificare la zona. Bravo, lei va lì... ma gli ho detto, prendo la coperta e te la metto sul prato, punto. D'accordo, adesso noi non lo possiamo sentire quello che lei ha detto, non lo possiamo sentire perché non c'è l'audio. Lei lo dice e noi ci crediamo. Fidatevi dello strappo. No, ma no, no, ma non è strappare, lei ha preso la... Scusi. Però assessore, un attimo, è una cosa importante. Lei dice di aver detto questa cosa qua. Quel signore lì è stato svegliato e va benissimo, per carità, non no, è mai. Ma non è stato, va bene, erano le 9, parliamo delle 9 di mattina, sì. Ma ho capito, perché uno non si può svegliare alle 9 di mattina, non ho capito. No, perché uno deve... no, sicuramente sì, ma voglio dire, è stato svegliato, sembra che l'ho svegliato alle 4 di notte. No, lei l'ha svegliato alle 9, ha preso la coperta e l'ha messa lì. Non l'ha buttata, e siamo d'accordo, l'ha messa lì. Per consentire la pulizia del portico. Ma perché l'ha fatto lei? Un giorno sì. Allora, per favore, io credo che giornalisti... Ma se uno la sveglia la mattina, scusi, a lei gli toglie la coperta? Scusi, suo marito quando la sveglia le toglie la coperta? Ascolti, io non voglio rispondere. Allora, lei mi sembra che lei stia facendo provocazioni. No, io ho mandato un comunicato. Scusi, ma comunicato che c'entra il comunicato? Cosa c'entra il comunicato stampa? Scusi un attimo, lei sta parlando di fango. Quale fango? Pronto? Allora, vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta, tanta, tanta paura? Sì, mi dica. La terminazione nervosa che è presente dentro l'ano è evidente che procura un piacere talvolta superiore, secondo alcuni. Per cui, ragazzi, ma dobbiamo fare le prossime puntate sulla differenza tra la penetrazione anale e quella vaginale? Dimmelo subito, no? Dimmelo subito, perché mi stai spronando, mi stai suggerendo, mi stai suggerendo. Più mi dici di no, dimmi di sì, dimmi di sì che non lo faccio, dimmi di sì. No, grazie. No, no, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese, ma è meglio il mojito. Eppure liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove uscito, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non è eccessivo, sono il fuori programma televisivo. Non ho i superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il signor Parenzo. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. La zanzara. Mi ricollego un attimo ad un messaggio di un ascoltatore, di un collega ascoltatore di ieri, che diceva che è bellissimo scorreggiare con i finestrini abbassati. Sono d'accordo, ma è ancora più bello e sublime iniziare la scorreggia con i finestrini aperti uno o due dita. Quando senti che sta per uscire il gas, zac, sollevi i finestrini e ti chiudi ermeticamente nell'automobile e ti gusti il sapore, anzi l'odore della tua produzione. Beh, stratop. Effettivamente, ragazzi, è tutto vero quello che racconta l'ascoltatore, è tutto assolutamente vero. È tutto. Come no? Molto, come molto meglio sotto le coperte. Quello sì, quello del forno olandese, già più volte dibattuto in questa emissione. Si disperde molto meno. Sì, però anche la macchina è top. Quando sei da solo, quando sei da solo, anche in estate, chiudi tutto, chiudi tutto e ti gusti ogni piccola sensazione meravigliosa della tua scoreggia. Sto parlando, però non mi dicono mai scoreggiato in macchina da solo. Ma perché senso ha che poi uno tenga il finestrino chiuso? Questo dico, ma poi può capitare che uno magari abbia un problema di stomaco, ma uno apre immediatamente. Non hai mai scoreggiato in macchina da solo, non hai mai scoreggiato in macchina da solo. Ma non tengo, magari mi sarà capitato per problemi di stomaco, ma non è che poi tengo di stomaco, il semplicemente chiuso. Per il piacere della ma certo, lo devi tenere apposta questo cazzo di finestrino. Allora, ragazzi, nei giorni scorsi già ve l'abbiamo anticipato, è una cosa accaduta quest'estate, ma in realtà non è solo di quest'estate, questo signore ha ripetuto le sue idee più volte. Si chiama Quaresima e non ricorda la Quaresima della religione. Nomen omen, no, dicevano i latini. No, invece non è così. Massimiliano Quaresima, il quale sostiene che i vaccini portano all'omosessualità. Ecco, vedi. Ha una Quaresima di neuroni, per cui questo signore produce ex Five Stars, è un consigliere municipale, si chiama così, a Roma, cioè un altro politico indizio, sostanzialmente, un politico indizio, ex due Five indizi. Stars, ex Five Stars, due indizi, non è più un Five Stars nei 5 Stelle. Questo signore che è sto rumore? Che sta armeggiando con qualche cosa, Gottardo o Parenzo? Gottardo, no, allora, questo signore sostiene che se uno viene vaccinato, credo che parli però del vaccino anti-influenzale, non so di quale vaccino, non lo so, forse di tutti i vaccini, porta direttamente un aumento dell'omosessualità, chiamiamolo. Quaresima? Sì. Come stai? Sono Cruciani. Ah, buongiorno. Tanto. Stai bene? Tutto bene? Sì, tutto a posto. Ma ho visto che ti hanno messo un po' sulla graticola. Sì, non ti preoccupare, mo ci metto io. Perché? Che è successo? Perché denuncio. Chi denunci? Quelli che mi hanno messo sulla graticola. Cioè, quelli che ti hanno accusato, ti hanno attaccato in questi giorni? Che mi hanno detto che sono omofobo. Ma hai detto una cosa precisa, adesso omofobo è un altro discorso. Hai detto una cosa molto, molto precisa, cioè che a causa dei vaccini si potrebbe, c'è un incremento dell'omosessualità. Questo l'hai detto oggettivamente, o no? Potrebbe esserci un incremento. E poi comunque è un'opinione, no? Come però scusami Quaresima, tu hai detto esattamente c'è un incremento dell'omosessualità a partire già dall'adolescenza a causa dei vaccini. Nei vaccini ci sono le cellule dei feti abortiti femminili eccetera, che modificano l'informazione che entra nel corpo e ti trasformano in omosessuale. Cioè tu stai dicendo sostanzialmente che, adesso riducendo la cosa all'osso, che con i vaccini si diventa gay. Potrebbe essere anche vero. Ma come potrebbe essere vero? Scusa, adesso oggettivamente, che prove ci sono? Le prove sono prove biologiche. Allora, ti spiego. Praticamente un eccesso di estrogeni, sì. Una carenza di testosterone. Poi ci sono degli adiuvanti dentro i vaccini. Sai che cosa sono le nanoparticelle? Nanoparticelle. Sì, cioè vuol dire, tu secondo te ci sono delle cose dentro i vaccini che portano a che cosa? No? Spiegami dal punto di vista. Cioè portano che a una modifica della funzionalità delle cellule. E dunque praticamente nascono persone già orientate verso l'omosessualità, dici? Poi hai aggiunto anche un'altra cosa. Andrebbe rivista. Secondo me certo, perché chi è? Io a parte che disconosco l'OMS, non so chi sia l'OMS. È un gruppo di medici che prendono finanziamenti dalle multinazionali e da Bill Gates. E dunque? E dunque, quindi, chi sono loro? Cioè, secondo te è una malattia? Non ho capito, l'omosessualità? No, secondo me. Secondo i psichiatri che fino a quel momento hanno certo, perché non è DSM... Secondo te è una malattia perché? Spiegami, perché è una malattia? Perché te l'ho spiegato, perché se c'è un danneggiamento di una cellula, la cellula si ammala, e quella è una malattia. Cioè, secondo te l'omosessuale nasce malato perché ha le cellule malate a causa dei vaccini, cioè questa è la sostanza, diciamo, andando a ridurre proprio all'osso il ragionamento. Allora, dagli ultimi approfondimenti ci sono stati dagli ultimi anni, da 20-30 anni a questa parte, c'è stato un incremento o no? No, no, sì, un incremento di omosessuali, non credo che c'è stato un incremento di omosessuali. No. Ma non lo so se c'è stato un incremento di omosessuali. È un sondaggio? Ma non credo. A me sinceramente preoccupa di che i vaccini possano causare questo tipo pure di... questi vaccini. No, però scusami un attimo, quasi voglio capire. C'è stato un aumento? Io non credo c'è stato un aumento di omosessuali. Che... Come non crede? La parola tua è contro la mia, scusa. No, ma ho capito, ma non è che c'è un aumento di omosessuali, c'è un aumento, delle persone. Ma chi è che parla sotto? È Parenzo. No, dico, vedi i danni dell'uno vale uno. Parlate in due. L'omosessualità non è, lascia perdere, non è una malattia, però, amico mio, è uno che nasce. Allora scusa, fino agli anni 90 perché l'hanno definita? Ma non lo so, perché infatti il mondo va avanti, il mondo va avanti. Giornalista approfondisci. No, però scusami, io non ti do dell'omofobo. Guarda, partiamo da questa cosa, per me tu non sei omofobo, sono coglione. Perché se no te denuncio subito. Ma non ti do, infatti sto dicendo che te la do. È solo un coglione, non è un omofobo. Dai, non si può dire omofobo. Omofobo. Ma ci sarai tu, coglione. No, scusa. Appunto, non voglio insultare nessuno. Devi dire coglione, no, dai. Dico, non si può dargli dell'omofobo, perché sarebbe anche attribuirgli un ruolo troppo importante. Ma semplicemente. Scusate, ma voi chi siete? Un coglione. Cruciani e quell'altro chi è? Scusi. No, Parenzo, ma ma lo dico con grande rispetto, come ti deve essere lustri. Parenzo. No, ma lo dico senza che si offenda. Senza che si offenda. Però scusami, Quaresimi, io dico. Non mi offendo, ma appunto, lei sono un coglione, non è un omofobo, dai, appunto, esatto. Io voglio dire una cosa, per te essere gay è un problema, no? Allora, come se ho avuto gli amici gay, per me è un problema. Perché se dici che è una malattia, allora qualche cosa, c'è qualcosa di sbagliato. Ma chi è che l'ha detto? L'ha detto il DSM-4, chi sono gli psichiatri che l'hanno detto? Ma non lo so chi l'ha detto, tu sostieni, sei d'accordo? Allora, tu vuoi vedere che cos'è il DSM-4, studia. Sì, ma d'accordo, tu sostieni che è una malattia, però, perché lo dicono alcuni psichiatri, ok? Il mondo è andato avanti, non lo considera una malattia. La scienza l'ha deciso l'OMS. No, però scusa, ma chi se ne frega se uno lo piglia in culo o no? Te lo posso dire in maniera molto cruda. Ma saranno problemi loro, ma cioè, figuriamoci. Appunto, dico, per cui che problema c'è? Perché il mondo secondo te ma è peggiorato. Per me non è un problema, per me non è un problema. Io sto dicendo, dal punto di vista scientifico, i vaccini contengono delle sostanze molto tossiche. Tra l'altro c'è anche uno studio, ve lo potete andare a vedere, il mercurio. Che porta all'omosessuale, in qualche modo porta all'omosessuale. Il mercurio, ascolta, devi nei vaccini c'è contenuto il mercurio. Il mercurio su degli animali, mi sembra l'ibis, ha praticamente modificato l'orientamento sessuale. Ora vatti a studiare questa cosa. Scusami un attimo, c'è anche un'altra cosa che tu dici: porta alla morte l'omosessualità perché non c'è procreazione. Dunque, secondo te, andando avanti così, saremo finiti, il mondo finirà, o sbaglio? E tu che pensi? Cioè, secondo te i vaccini porteranno, più si vaccina più ci saranno omosessuali, più ci saranno gay, e dunque il mondo andrà alla distruzione a causa dei vaccini. Questo è il ragionamento finale, o sbaglio? No, il ragionamento è che l'omosessualità è una strada che porta alla morte. Non ho detto che i vaccini portano alla morte, anzi portano anche alla morte, perché comunque all'omosessualità porta alla morte, perché tu dici alla fine, se tutti diventano omosessuali non si fa più un caso, cioè il mondo finisce. Certo, questo è il discorso. E però non c'è questo pericolo che tutti diventino omosessuali, ti posso dire, non c'è questo pericolo. Non c'è questo pericolo, però comunque c'è stato un incremento negli ultimi anni. Un incremento degli idioti c'è stato, questo è sicuro. Ti posso dire una cosa, quando uno dice che è aumentata l'omosessualità, un po' mi incazzo, amico mio, perché non è aumentata. Ma sono semplicemente oggi c'è gente che fa coming out più che in altri periodi, punto e basta. Non è che sono aumentati i froci. Quello che mi preoccupa sono i vaccini. I vaccini possono modificare il comportamento e l'orientamento sessuale, modificare la funzionalità cellula dalleggiandola. Vabbè. A me questo mi interessa. Poi di quello che dite voi, giornalisti, non te ne frega nulla. Non te ne frega perché ci sono dei studi che affermano degli questo. Studi, come lo definisci questo signore, tu, David? Diciamolo in sintesi. Come lo definisci? Non voglio offenderlo in alcun modo, perché la prima puntata è semplicemente un idiota, non è un omofobo e non voglio offenderlo, è un povero idiota, Ma, come te, sono idiota come te. Cioè. Idiota. Ciao amico mio, ciao Quaresima, ciao. Ciao belli. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Ciao Crux, una domanda veloce. Tu che cosa pensi degli uomini bisessuali? Rispondici subito. ragazzi, gli uomini bisessuali. Gli uomini che bisessuali... domanda è? Cosa vuol dire? No, allora, cosa penso? Penso che la bisessualità è una grande opportunità, ma siamo tutti un po' bisessuali. Ma no, tutti, e che in fondo, faccio ripetere a Gottardo quello che diceva Woody Allen della bisessualità. Lo faccio ripetere con grande piacere. Cosa diceva Gottardo Woody Allen della bisessualità? Me lo puoi dire apertamente? Che raddoppia, lo puoi... raddoppia la probabilità di scopare sabato sera. Ragazzi, cioè, adesso non so se si riferisse solo al sabato sera, signor Woody Allen, però insomma raddoppia la possibilità. Raddoppia le possibilità. Se vi piace così. Ma no, ma è normale, è una cosa statistica anche da questo punto di vista. Io no? Sono un aziendalista. Sì, lo so che tu sei di un'unica parrocchia, all'antica azienda. Mi sembra ci fosse un WhatsApp di una signorina che vuole fare una cosa a tre con noi, se non mi sembra, no? Se non mi... No, no. Vabbè, Franco d'Ascoli, vai, Franco. No, ma scusami, con noi in che senso? Con te e Parenzo o con te e me? No, con me e Parenzo. Vuole fare una cosa con tre, vabbè, con me e Parenzo. Vabbè, Franco d'Ascoli, allora. Franco, ma io lascio tranquillamente il campo, sapete, non vai Franco, dimmi Franco. Dimmi Franco, ti sento male, dimmi. Mi senti? Non c'ho l'auricolare. Non c'è l'auricolare, ma ti sento avrai male lo stesso. Avrai problemi probabilmente. Sì, molto probabile. No, Crucio, come va? Non c'è male, dimmi Franco. Io ti volevo parlare di quello, ho chiamato altre volte. Sì. Il profumo, io lo chiamo profumo dell'odore dei piedi delle donne. Lo sapevo. Sì, dimmi. Che aveva dei problemi. Mi piace. Ti piace? Ma molto, ma guarda, c'è una cosa, una fissa incredibile, faccio le foto. Lo so. Fai le foto. Fai le foto poi? Oltre le foto che fai? Gioco con i piedi. Si gioca. Ma con lei prende l'odore. Il reddito di cittadinanza per caso? Lei lo prende il reddito di cittadinanza? Parenzo dice che sono un miserabile, sicuro. No, no? Perché dice che è un miserabile? Per ora no. No. Non c'è una passione di tanti. Sì, un disturbato miserabile. No, ma perché un uno che fotografa i piedi e li accusa? Siamo tutti disturbati. Beh, ma tutti. Non è un disturbato, è semplicemente uno che ha una fissazione. È un feticista dei piedi. Ma che altre stranezze fa? Perché telefona qui. Chiama per dire di queste follie che... per condividere. Giusto, tutto giusto, è tutto giusto. Dimmi Franco, voglio capire una cosa. Condivide. Cosa ti piace di più, la puzza o un piede profumato? Cioè il piede... Crucio. La puzza, ti piace il piede sporco? Secondo anche, me, perché ha votato lei, scusi? Sporco di sporco. Sporco di sudore. Di sudore. Perché ha votato alle ultime elezioni lei, scusi, così per curiosità? Domanda, per partire delle buone maniere. E qual è il tu maniere? Non ci credi il partito dai, delle buone maniere, quello era del signore, no, quello del signore era. No, non era apparentato con la Lega, no. Ma io voglio capire una cosa, Franco, il sudore, d'accordo, tu hai chiamato per ribadire questa cosa che ti piace moltissimo il piede sudato, giusto? Il piede sudato, ma un certo profumo, un certo odore, calore, ma... come lo vuoi chiamare. Sì, ma che, ma tua moglie, sei sposato tu? No, singolo. E dove vai a trovarli sti piedi? Dove li vai a provare? Che ha detto? A Troie. Vai a Troie, benissimo. Penso. Dove li vai a trovare questi piedi? Solamente a puttane, andando a puttane? Non ho capito. No, prima, adesso sto male, no? C'ho la sclerosi multipla. Pure. Sì. Ah, poverino, questo ci dispiace. È un macello, Crucio. Lo so, questo è importante. Vedi, questo qua è un segnale molto importante, questo qua, perché Parenzo ti si è scagliato contro e poi la cosa adesso gli torna indietro, perché adesso deve mostrare sentimenti di pietà nei confronti di questo signore. Non si deve provare. Dispiace, dunque adesso come fai? Aiutiamo questo signore, per esempio. Esatto, aiutiamo questo signore che ha la sclerosi multipla, gli piacciono i piedi e non vorrebbe fare altro che qualcuno che va lì e gli mette un piede magari in bocca, giusto? Vabbè, Franco? Meglio di questo. E allora ragazzi, mobilitatevi, uno questo c'ha la sclerosi multipla, dove sei? Ad Ascoli, io voglio aiutarti assolutamente. Sì, ragazze mie che fate anche, come si chiamano? Love givers, no? Si chiamano love givers, cioè quelle che regalano amore, è un tema molto importante, un tema sociale bravo, importante. Questo signore accorrete. Lo sento sofferente, ha un sogno, quello di continuare a sentire l'odore. Godere dei piedi delle donne. Ma tu ogni tanto ti porta una prostituta nonostante la tua situazione? Ci vado da solo, non sto a livelli. Ah, non sei a livelli ancora. Cammino con il bastone, cammino male, ogni 10 metri, 20 metri mi devo fermare. Ragazzi, ma tu sei un esempio di una cosa fondamentale. Che... Beh, quello è un caso particolare, però, questo qui. Cioè, il caso di una persona che evidentemente ha bisogno, e quindi non è come persone ma come no, quelli non che. Non scendiamo in pietosismi, no. Dai, non ti impietosire, dai, che la pietà non funziona. Non funziona. Io ti rispetto tanto. Io lo sai quanti anni che ascolto la zanzara? 13 anni. Capito? Sono iscritto a tutti i gruppi della zanzara, tutti. Allora, ma tutti, Franco D'Ascoli, sì, scusami Franco, però io voglio dire una cosa. Dunque, malato di sclerosi multipla, giusto? E sì. Parenzo si impietosisce di fronte a questo, ma non funziona la pietà. Questo è un grande reale, ti portiamo a puttane Franco. Facciamogli gustare i piedi, su, dai che è un grande, dai che è un grande reale, la realtà, la realtà, la vita, dai. Ma non lo fa Freccero. Non lo fa Freccero perché si impietosisce di fronte alla scheda all'uomo malato. Dai. Non ti devi impietosire, Carlo, di fronte a questa cosa. Naturalmente di fronte all'opportunità di avere un malato. Aspetta. Di fronte la grande opportunità di avere un malato, naturalmente, va portato subito alla RAI. È partito. Allora, dice domani stesso andrò naturalmente alla RAI e dirò ho un malato, naturalmente, a disposizione, e che è disposto con noi a raccontare la realtà. In prima serata direi due, ovviamente, a disposizione. A Franco domandiamo però, questa stenosi che lui ha, influisce sulle la sclerosi influisce poi sulle erezioni o comunque il pisello non Ci sono, è difficile, ci vuole molto tempo a eiaculare. Non è assolutamente un problema, ma però potrebbe diventare un'opportunità. Questo in prima serata, ma mandato in prima serata l'eiaculazione del malato. Dai, Carlo, dai, com'è che non raccogli questo? Un rapporto medio quanto dura, Carlo? Franco, quanto dura l'inchiesta? Senti il Pulitzer lì. Mamma mia. Senti, Pulitzer lì che fa le domande. Ma lei da quando ha la sclerosi eiacula dopo rispetto a quando non aveva questo tipo di patologia? Ma cos'è? L'ho detto dopo, sì. Sì, te l'ha detto. Ma te l'ha detto. Ma cosa vuoi vincere? Il premio Lino? No, non ho capito per le domande. Ma che roba è? Sembra di staffa una visita. Comunque dai Carlo, su, che è pronto l'eiaculazione. Ne parlerò naturalmente domani direttamente il consiglio d'amministrazione della RAI. Arriverò con caso... il... Ma in caso di pippe, per esempio, no? In caso di lei si fa una pippa, può diventare un problema perché si stanca peggio. Prima ancora poi di peggio. In che senso? Peggio in che senso? Cosa vuol dire? Ma chi sei, Woodward, che fai le domande così? Ci vuole tempo, vabbè. Franco, ne riparliamo, però il format è pronto. Ciao, Franchi. Ciao. Allora ragazzi, vi avevo detto che ci vogliono dei tecnici o comunque delle persone esperte per parlare della questione del pissing, e mi sembra fondamentale avere qui un'ostetrica che però si occupa anche di sesso con dei tutorial meravigliosi sull'internet, che si chiama Violeta Benini, che saluto, buonasera, eccoci qui. Buonasera signora. Come stai cara? Come stai? Bene, sempre di corsa. Allora, voglio capire una cosa. Il pissing, spiegamolo a questi due ignoranti che stanno qui. Io ho una persona, un amico, cui piace moltissimo che la donna gli pisci addosso. Ecco, vabbè. Soprattutto nelle parti intime. Soprattutto nelle parti intime. Ma che amicizia hai? Sì, mio amico carissimo, che ama molto questa pratica. Di nome anche a questo punto. Il nome. Un mio amico. Ma perché? Ma se non fosse così disdicevole, non lo terresti nascosto? Purtroppo ci sono ancora dei tabù. Io ad esempio ho un amico a cui piace molto Scurati. Lo dico chi è. Giovanni Benincasa è un grande. A lui piace leggere Scurati. Però scusami Violeta, non si vergogna di dirlo. Di il nome del tuo amico invece. Non lo posso dire. Scusami Violeta, posso capire una cosa, secondo te questa persona qua è malata oppure no? Cioè questo è, innanzitutto chiariamo questa cosa. Qua questo qui ama ogni tanto farsi, anzi vorrebbe che ogni sua partner gli pisciasse per esempio sul pisello, su una parte intima. Questa persona è malata, sì o no? Direi di sì. Allora, direi se, di sì. Se il feticismo non porta, non arreca un disturbo alla persona o alle persone che frequenta questa persona, non è malata, non è un disturbo. Cioè, vuol dire, se lui riesce a godere solamente così, questo sì, però, cioè, se una persona riesce a godere solamente facendosi pisciare addosso, prova eccitazione massima solamente in questi casi, come la possiamo definire? Intanto qua servirebbe più il parere di un sessuologo psicologo. Vabbè, ma anche qua bisognerebbe dire se comunque lui è contento in quel modo e questo non gli crea un disturbo, un disagio. Però scusi dottore, se noi passiamo tutta la vita a spiegare ai nostri figli che hanno il pannolino, io ne ho quattro di cui una con il pannolino ancora perché è appena nata, gli altri gliel'ho insegnato a fare la pipì nel vatter e a non farsi la pipì addosso, perché deve esserci questa regressione? Io questo che non capisco. Ma non è una regressione, cioè non è una regressione evidentemente sua Violeta, non è una, perché molti la considerano una regressione, cioè una roba da perversi, una roba da nascondere, una roba da sentire, quasi da vergognarsi. Invece possiamo dirlo che non bisogna vergognarsi se uno ama queste cose? Assolutamente no, ma anche come prima parlavate del feticismo dei piedi, cioè sì. Sono, i feticismi sono tantissimi e appunto se non creano un disturbo, un disagio... Sì. No, vabbè, sono accettabili, sì, certo, non c'è dubbio, ma qual è la, diciamo, qual è la, c'è una differenza tra chi ama, per esempio, vedere urinare una persona, semplicemente la vista, o chi, che ne so, si fa mettere un imbuto e si fa ingozzare in bocca, perché vediamo anche questo, diciamo, no, sull'internet. Allora, da un lato c'è una differenza di gusti, cioè di quello che può piacere, da quell'altro ci potrebbe essere chi, comunque, beve urina, potrebbe andare incontro a dei rischi. Di quali sono i rischi, scusami? Cioè, bere l'urina degli altri, perché io ho visto moltissime persone che amano, non dico bere tutto, ma insomma ogni tanto bere l'urina degli altri. Cioè, questa roba qui è pericolosa? Dipende, potrebbe esserlo. Bisogna, intanto l'urina è comunque uno scarto del corpo e quindi ci sono comunque delle sostanze che vengono scartate. Se uno ne introduce tanto, ad esempio l'urea, potrebbe non essere una cosa simpatica per il corpo, perché si trova a dover gestire uno scarto che magari è già ingolfato per conto suo o comunque sta andando a regime. Cioè, voglio capire, tu non consiglieresti a qualcuno di cioè uno che ama questa cosa qua, che cosa deve fare la prima volta? Cioè, scopre di amare, diciamo, vuole sperimentare, brava. Cioè, che cosa, intanto, cioè, deve conoscere quella persona, innanzitutto. La persona, sapere qual è il suo stato di salute. Sì. Non deve stare assumendo farmaci. Addirittura. Perché i farmaci, diversi farmaci, come mangia, perché se mangia male i suoi scarti saranno non proprio simpatici. Sì. Non deve casomai essere la prima minzione del mattino, sì, che è quella molto più concentrata, sì, quindi magari bere, sì, e che non ci siano infezioni in corso. Beh, allora a questo punto nessuno fa nulla, perché se devi aspettare tutte queste cose, non fai nulla. Cioè, la maggior parte delle persone che pratica il pissing se ne fotte di queste cose, oppure bisogna non bere. Cioè, bisogna semplicemente, c'è anche un rischio se uno se la fa fare addosso, punto e basta. No, ma perché? No. E proprio qua stiamo parlando dell'ingestione. Ora, se c'è un'infezione magari urinaria e la persona si fa urinare sopra una lesione, sì, potrebbe esserci un rischio. Dunque, il pissing può portare anche delle malattie. Allora, intanto, la vescica non è un ambiente sterile come si pensa. Quindi anche, diciamo, anche in salute ha dei batteri. Sì. Ma soprattutto se c'è un'infezione c'è un rischio di trasmettere. Sì. Quell'infezione lì, comunque quei batteri. E dunque, chi si fa urinare, per esempio, sugli organi genitali, anche lì corre un pericolo? Allora, qua mi coglie in fallo, perché non so bene, perché sto pensando, ora sto passando al setaccio i principali batteri che causano le infezioni urinarie. E dunque? Potrebbe, sì. Potrebbe perché essere, esempio, un pericolo. Abbiamo la risposta. Potrebbe essere un pericolo. Con l'Escherichia coli, molto presente, l'Escherichia coli, ad esempio, su una vagina può portare delle infezioni. Hai capito? Cioè, tu dove ma io ho capito, io non faccio nulla di queste cose qua, quindi perché mi dici hai capito? Hai capito? Ho capito, mi hai confermato che sono cose che non faccio, quindi hai capito. Cioè, tu hai capito i pericoli. Cioè, ma a me non me ne frega nulla, perché io non pratico queste attività, quindi non ho capito. Ma potresti, che ne sai, magari incontri qualcuno che vuole. Ma non me ne frega vuole. Niente, comunque mi sta scrivendo Volpe Pasini, Diego Volpe Pasini. Sì, dimmi. Che dice, non ho la radio, non so cosa stai dicendo, ma certamente non condivido. Vai, veramente un cretino. Scusa, non lo so. Scusi, ma lei lo consiglia, lei come esperta di queste cose qua, lo consiglia a qualcuno o no? Ma chi? Cara? No, mi sto rivolgendo direttamente. Lo consiglia o no? Oppure lo sconsiglia perché è una cosa troppo pericolosa? No, se qualcuno vuole provare, suggerisce, dico, spiego quali sono i rischi e casomai come farlo in sicurezza, come abbiamo fatto qua. Sì, scusa un attimo, ma voglio capire, è un modo anche per marcare il territorio? Cioè, alcuni lo vedono come un modo di marcare il territorio, come una cosa di potenza, di dominazione? Alcune persone sì, altre lo possono vedere come umiliazione, altre persone può anche semplicemente essere perché gli possono piacere i giochi bagnati, caldi. Sì. Comunque, o trovare, ragazzi, qualcosa di diverso, ma le motivazioni possono essere veramente tante. Sì, io direi che le cose più gettonate sono il viso e i genitali, mi sembra di capire, no? Da quello che so io, mamma tra le persone, mia. Il viso e i genitali, mi sembra sono le zone del corpo più gettonate. Mamma ragazzi, mia. Parenzo, dovresti provare, fatti pisciare addosso una volta. Ma, tipo, quel paese, ma dai, ma tanto ma non c'hai una parte del fissa, ma perché? Ma non me ne frega niente di fare queste porcherie, mi fa schifo l'idea, basta, non mi interessa. Gottardo, fate voi, Gottardo si farebbe pisciare addosso, ma il viso e i genitali lo escludi. escludi io o no? Il viso e i genitali li escludo. A me è capitato una mia amica in Spagna, ecco, durante un congresso universitario, che mi pisciò sui piedi. E perché? Ma e non mi diede particolarmente fastidio. Sì, apposta, sì, okay. Sì, sì, sì, sì, allora fatemi pisciare addosso, e mi pisciò sui piedi. Ero molto giovane, ebbi un po' di paura, però effettivamente pensandoci 20 anni dopo non era una brutta scena. Vabbè, io voglio capire una cosa. È una perversione o una roba? Cioè, perché c'è questo tabù sul pissing? Voglio capire da Violetta Benigni. Ma perché fa schifo? Ma come c'è tabù? Perché, ma che vuol dire? Dice apertamente: mi piace farmi pisciare addosso, viene preso per un matto. Viene preso per un perverso, un matto. Ma chiedilo a chiunque, ma direi. Buona parte dei feticismi vengono presi come cose strane. Rientrano in quella che può chiamarsi ora sessualità atipica, giusto perché. Ma non è atipica, è una cosa normale, secondo me. Per atipico si intende semplicemente che fa parte di un po' di pratiche che non sono prese in considerazione dalla dalla maggior parte delle persone, d'accordo, però non sì, che sia strano, ma semplicemente che un'altra cosa, per definirla normale, per non chiamarla più perversione. Ma scusa, ma insegniamo a tutti a fare la pipì nel water, ma cosa c'entra? A non farsi la pipì addosso, e adesso addirittura da altri ci facciamo fare la pipì addosso, e ma mi state dicendo che è normale? Ma signori miei, ma potete dire che è normale? Ragazzi, io credo che c'è un aumento, bisognerebbe tirarlo c'è fuori, un di aumento, un aumento come sì, quello da c'è, dire, un c'è un aumento di gay, sì, c'è un aumento di persone, un aumento dell'Istat, che sta tirando aumento, fuori sì, questo tipo di, sì, sesso, questo tipo di perversione. In che direzione va il paese? Molte si vede, persone certo, amano farsi pisciare addosso, non mi stupisce, o pisciare addosso. E infatti non mi stupisce quello che italiani succederà alle regionali. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lo dica, a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ora! È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su Aruba.it.